Runtime Radio presenta OGM. OGM. Non siete orgogliosi? Non siete orgogliosi di questa? Esatto. Non siete orgogliosi di questa cosa meravigliosa che insuperabile, che ci portiamo dietro? Insuperata e insuperabile. Esatto. Scusate, ma Carlo lo sa che ci abbiamo. Esatto, ma Carlo lo sa che ci abbiamo questa sigla. Ma Carlo se ne frega. Quando ha sentito questa sigla è scappato a Monza. Infatti. Allora ragazzi, benvenuti a OGM. Ringrazio e saluto Walter Sbano. Ragazzi, ben trovati. Vai. No, è che non ero preparato. No, è manco io, è partita così. Sembra molto una breaking news del telegiornale americano. No, quella arriva dopo. Ragazzi, insomma, appare un po' mezzo lazzaretto tra il tecnico e le vicissitudini personali, però ce la faremo pure questa sera, suppongo. Ma noi ce l'abbiamo sempre fatta e sempre ce la faremo, perché non è importante la qualità, è importante esserci. Salutiamo anche Carmine Puccio Console. Scusatemi, fatemelo dire, perché dove lo so, la qualità ha rotto i coglioni. È Skype, ragazzi, Skype. Ciao a tutti. Ciao, bello, ciao. Salutiamo anche Marco Gualdi. Ciao, sempre bella la nostra qualità. Qualità che solo noi abbiamo. È vero, una qualità che poi tra l'altro io ho fatto delle, a volte tutto a posto, a volte Skype, ragazzi, veramente non è adatto, non è uno strumento adatto per fare queste cose. Simone, secondo me è sempre il problema dell'interfacciamento di Skype a Virtual Cable, che è proprio, è come dire, è una congiunzione astrale malefica che io non sto usando, quindi cioè io sono in collegamento diretto con Skype. Esiste questo Virtual Cable? Sì, esiste. È colpa sua. Fino a ieri era colpa sua, oggi in teoria non dovrebbe. Tanto che Skype che è inadatto, perché allora, anche noi siamo inadatti, insomma. Il sistema che stai usando, se e l'abbiamo inaugurato oggi, forse è da ripensare, però non lo so. Vabbè. Allora, e salutiamo anche Francesco Lobby Frontali. Dai, io se non lo sapete sono quello, uno di quelli che fa la sigla, giusto per vantarmi di questa cosa. Esatto. Francesco, io ho bisogno di farti una domanda che è molto... Aspetta, dammi prima la risposta e io cerco di trovarti la domanda. No, perché la domanda è rivolta proprio a te, perché mi inquieta il fatto che tu sia sotto sopra nella il tuo avatar nella chat di Skype. È una cosa studiata l'altra sera. Sì, è una cosa che deriva dall'ultima la diretta di Runtime de Notte, che sono stato accusato così a caso di fascismo, che sapete, di qualsiasi cosa più a destra della sinistra extraparlamentare, per lui è automaticamente fascismo. Esatto. Ma in realtà era motivato quello che ho detto. Il mio avatar per essere. Ma sospettavo qualcosa del genere, lo devo riconoscere. Vabbè, ragazzi, così era solo una domanda. Mi fate salutare gli amici in chat che sarebbero cuciniere. Ce n'è uno solo. Dallo spaccio profondo. Ciao cuciniere, che insomma, indefesso e stoico, ci fa compagnia. E si fa fare compagnia. T'hanno dato del fesso, caro cuciniere. Io non so. Insomma, poi reagisci tu. Vedi tu, insomma, quello che pensi. Io, cuciniere, visto che siamo di quella regione là, gli risponderei in da fessa e citare parente femminile a piacere. Che non ho capito se sta mangiando degli involtini primavera, dei tacos messicani. Che stanno mangiando? No, saranno involtini primavera con la salsa agrodolce. No, saranno salsicce e friarielle. Ma a me, ascolti, sta facendo salsicce e friarielle. La primavera messicana anche un po'. La primavera messicana è una cosa politica, vero? Non lo so, però ci sarà stata la primavera messicana da qualche parte, sì. Sicuramente. Probabilmente in Messico. Sì. Quando fiorisce la cannabis. Sì. Probabilmente in primavera. Guardi, tu sei con un fantastico microfono di Runtime Radio, immagino. Esatto, che tengo gelosamente tra le mani. Perché non no, però ci va meglio, dire. Devo dire. Sì, però sempre quell'effetto un po' tipo da retrocuscino, diciamo così. Però, insomma. Vabbè, anche un po' Nando Martellini, anzi Nando Martellotti, quello di... Ve lo ricordate King Star, Calendar Man? E c'erano l'inviato che era per scimmiottare in italiano, l'avevano chiamato Nando Martellotti, col suo cameraman che era alto 3 metri, non si vedeva mai oltre la cintola, e lui aveva questo microfono a mano, e secondo me Gualdi più o meno mi ricorda quel personaggio lì. Gualdi, hai capito cosa gli ricordi? No, non voglio neanche capirlo. Non sai neanche di che cosa si parla. Ah, va bene, sì. Anch'io come al solito non so niente, quindi ne vado fiero, perché una delle prerogative importanti è essere orgogliosi della propria ignoranza. Quindi anche questa settimana sicuramente a livello politico, a livello generale, geografico, geopolitico, saranno successe tante cose delle quali io non so assolutamente niente, quindi sono comunque qui. Faccio... L'importante, Simone, questo lo dico così anche tu ti puoi rasserenare, l'importante è che abbiamo risolto. Trump ha vinto le elezioni, tutto no, si è sistemato. No, no, no, no, non ha ancora vinto le elezioni. No, no, come no? No? Dai. No, no, no. Io so che settimana scorsa ha vinto le elezioni e questa settimana, grazie a lui, c'è il vaccino per il Covid. Io so questo. No, assolutamente non c'è ancora il vaccino. Bisogna fare i riconteggi. Non c'è ancora, non è sicuro che ci sia un vaccino. Quindi bisogna aspettare, che se no ci sono stati dei brogli anche su quello. Ah, dici? Ma è grazie a lui o grazie a Graziella? Ma anche un po' grazie al cazzo, insomma. Questo è abbastanza importante, sapere se c'è anche un po' di grazie a Graziella. Vabbè, no, vabbè, dicevo che probabilmente voi siete informati su quello che sta succedendo nel mondo. E io, insomma, no. Magari siamo informatici, però così, di rimando, insomma. Di, almeno due di noi. Di altri. Seconda generazione, ecco. Quindi partiamo da Sbano, dai, Sbano che è quello che è il mattatore. Cosa devo fare? Mattatore. Cosa devo dire? Dici di cosa vuoi parlare questa sera? Ah, io sono rimasto basito e credo che in qualche modo ne farei l'argomento centrale della puntata, perché credevamo che il fondo delle manovre trampiane fosse stato toccato la settimana scorsa durante il convegno alla famosa area di scarico merci del Four Seasons, in cui Giuliani cercava di difendere la posizione di dire che avrebbero fatto 50.000 ricorsi per vincere le elezioni, ma in realtà sono riusciti ad andare anche peggio, perché nei giorni scorsi sempre Rudolf Giuliani, che ricordiamo ex sindaco di New York e avvocato, capo della squadra degli avvocati, mettiamola così, di Trump, ha dovuto nuovamente intervenire in una conferenza stampa durante la quale ha praticamente millantato di avere fantomatiche prove di una serie infinita di brogli che però non poteva, guarda caso, rivelare, per cercare ancora di tenere il in bilico risultato elettorale, che ormai è assolutamente palese e sputtanato. Ma era così nervoso, era così in uno stato di ansia per la marea, passatemi il termine, di cazzate che doveva dire, volente o nolente, che gli sudavano i capelli, era in fibrillazione e il sudore gli ha fatto sciogliere e colare lungo la tempia presumiamo la tintura per capelli, che doveva essersi fatto di lì a poco. Insomma, è una cosa veramente una scena veramente di un imbarazzo atroce, anche perché veramente lui era in un momento di concitazione. Io al posto suo avrei detto: vabbè ragazzi, abbiamo scherzato, è vero che costo tipo 2000 euro l'ora, 2000 dollari l'ora per la consulenza, però ormai io credo che veramente tutti gli stati stanno confermando la bontà del risultato elettorale, tutti quanti stanno anche gli osservatori che si tratta delle elezioni sicure della storia degli Stati Uniti. A un certo punto basta, fai un golpe. Sai chi mi ha ricordato, Walter? Mi ha ricordato Jack Nicholson nella scena di Butler. Mi strucco. Sì, mi più o meno lui. La scena invece... di vai. No, dice vai. Francesco. No, a me in realtà ricordava più Darkman, cioè di Raimi, che erano scaduti 99 minuti, quindi si stava squagliando di nuovo la faccia, doveva rimettersene di nuovo un'altra. Madonna, che bella citazione, che film sì. Che avrebbe bisogno di più amore. Sì. Comunque, ragazzi, tutto questo, cioè, c'è stato il sorpasso a destra di Giuliani, perché finalmente nello staff di Trump è comparso qualcuno che del suo staff legale è riuscito a dire cazzate più grosse di Giuliani. E allora c'è stato proprio il sorpasso a destra, assolutamente. L'avvocatessa Sidney Powell, che è quella che si è presentata in conferenza stampa dicendo testualmente, allora, premessa, la cugina di nomina Powell, vero? Assolutamente. Il sistema di calcolo elettronico dei voti, quindi tutto il processo che implica il caricamento delle schede nel lettore, il conteggio, eccetera, eccetera, è gestito da un software americano al 100% che si chiama Dominion. È stato usato in altre elezioni, tendenzialmente non ha mai dato grossi problemi. C'è stato un solo caso di 6 voti in un'elezione locale qualche anno fa, che poi è stato corretto. Il sistema di informatico che regge tutto questo è stato sempre al centro della teoria del complotto delle elezioni rubate dei trumpiani. La Powell l'ha portato a un nuovo livello. Praticamente sostiene che questo software è stato sviluppato da un'azienda segretamente controllata da Hugo Chavez, che ricordiamo è morto qualche anno fa. Vabbè, lo dice lei che è morto, esatto, qualche anno fa comunque. Che ben 10 anni fa si è premurato di infiltrarsi all'interno della Dominion e, usando delle informazioni a lui fornite dalla CIA, ha progettato questo sistema per rubare le elezioni a Trump con largo anticipo. La puttanata è stata talmente gigantesca, cioè proprio talmente tanti megatoni di cazzate, che il team legale di Trump si è visto costretto a mandare un'email a tutti i sostenitori, quelli che ricordiamo stanno dando soldi perché questa battaglia continui, poi scriveremo anche come vengono divisi, ha mandato un'email a tutti i sostenitori dicendo che la Powell ha parlato a titolo personale. Sì, anche perché ricordiamo che lo staff elettorale sta mandando mail ai sostenitori al ritmo anche di più diverse decine al giorno per chiedere soldi, sostanzialmente. Sì, sì, no? Sì. Ma, tra l'altro, è interessante, stavo dicendo prima, una persona, un giornalista della NBC, si è preoccupato di spiegare come funziona la ripartizione dei soldi che eventualmente qualcuno dovesse mandare. Fino a $8,000 non va un centesimo, al team che si sta preoccupando della campagna elettorale e delle elezioni. Cioè tu devi versare più di $8,000 perché vada a quella causa. Fino a $8,000 metà vengono assegnate a quello che si chiama in gergo Super PAC, cioè il gruppo che gestisce la campagna elettorale di Trump, e il resto poi finisce al Partito Repubblicano, che deve recuperare qualche sordina. Sostanzialmente ora Trump si sta facendo pagare la campagna elettorale con perché nessuno penso versi più di $8,000 tra i cittadini a cui mandano le mail, poi sicuramente ci sono altri sostenitori più danarosi, certo. Però si sta facendo pagare la campagna elettorale con la scusa dei riconteggi e della battaglia legale, tra l'altro mandando delle mail quasi minatorie, cioè mezzo sì, che poi probabilmente è uno dei tanti motivi per cui lui insisterà fino all'ultimo momento, anche perché altrimenti potrebbe essere verosimile pensare che il partito possa chiedere qualche indennizzo, no, a Trump in prima persona. E quindi tra questa Georgia devono essere pagati da chi li ha richiesti, quindi sono $3 milioni che potrebbero diventare 6 perché siamo al secondo riconteggio in Georgia, e dovrà pagarli chi ha fatto la richiesta, quindi per ora il Partito Repubblicano. Che guaio, ragazzi. Che detruisce, ovviamente. Anche perché chiunque sia sano di mente ha capito l'andazzo, dalla chiusura delle urne, da 5 minuti dopo la chiusura delle urne, non di più. E quindi tutto questo accanimento, autoaccanimento, è un danno che poi il Partito Repubblicano si porterà presso per anni. Quindi recuperare al danno d'immagine da qui a 4 anni dipenderà molto da chi potrà essere il prossimo candidato repubblicano, perché Trump sicuramente farà in modo, se sarà ancora in vita, insomma non so se glielo auguriamo, a piede libero, secondo me sarà un creazionista, naturalmente, il prossimo candidato. Proprio è sputato, creazionista, che chiaramente imporrà a livello costituzionale, insomma, la tesi, no, per la quale non so se qualcuno di voi ha visto Space Force su Netflix. Sì. Sì, che c'è un momento in cui lui va a bussare a quadrini praticamente alla commissione parlamentare, c'è sta il vecchio deputato ultraconservatore repubblicano che sostiene che la terra è piatta, no? Dice, perché diciamo, possiamo anche dire che se vogliamo possiamo anche dire che la terra è piatta, ma la terra è piatta. È stato bellissimo, geniale, grande telefilm. Non sono un amante in generale di questo tipo di stile, questo tipo di umorismo che un po' no, però devo dire che insomma è uno specchio della società americana. È un tipo di satira che forse in Italia noi riusciamo a cogliere solo in parte, probabilmente sì. Sai, Futurama, che è secondo molti è il capolavoro assoluto di Matt Groening, ma in realtà fuori dagli Stati Uniti arriva solo in parte, perché ci sono tantissimi riferimenti alla politica, all'attualità locale del momento della stesura delle sceneggiature, che a noi neanche arrivano e quindi non riusciamo a capirle, però è quattro spanne sopra i Simpson. è stato, perché comunque poi ha avuto meno successo e meno iterazioni, però il concetto più o meno credo sia quello lì. Sì, vabbè, adesso non, cioè nel senso, non sono esperto in merito, perché in realtà poi i Simpson io l'ho iniziato a seguire molto tardi, cioè forse ho seguito un pizzico di più Futurama, però vabbè, in generale la cosa bella di queste serie, o comunque Space Force in particolare, è che anche se noi non abbiamo magari idea di quanto a fondo vada nella critica nella società americana, ci rendiamo conto, diciamo, dell'infarinata generale, no? Poi probabilmente c'è anche un problema di localizzazione che magari non va nello specifico in cose che non solo magari sono difficili da tradurre, ma che noi non comprenderemmo neanche. No, ma sai secondo me dove è il nodo? Che quello che a un osservatore estero può sembrare una sorta di comicità grottesca, appunto il riferimento che tu hai fatto al deputato repubblicano che crede che la Terra è piatta, non è una comicità grottesca e paradossale, è in realtà qualcosa di molto molto vicino alla realtà. È possibile che negli Stati Uniti uno o più senatori possano essere convinti. No, ma io sono convinto che è così. I negazionisti sono... È assolutamente così, non solo, cioè vuoi dire come ci stanno... No, noi questa consapevolezza ce l'abbiamo internos, il problema è lo spettatore medio. Lo sanno gli americani. Esatto. Perché poi alla fine è un po' questo, insomma, anche il discorso. Oh, vabbè, dai, chiudevo qua, mi faceva ridere sta cosa che se tu vai a vedere quando ci sono state le primarie per l'elezione di Trump, in realtà i candidati, quelli ovviamente che poi alla fine sono usciti un po' di scena quasi subito, gli altri due o tre candidati, due dei quali erano insomma veramente de quella destra pericolosa, che altro che Tea Party, insomma, quindi alla fine vabbè, ma poi alla fine non è che Trump si è rivelato meglio, no, però lì per lì evidentemente era un'immagine un po' più, no, era il più moderato, pensate come stavamo messi, cioè un po' questo è il pericolo. Probabilmente il Partito Repubblicano adesso in poi cercherà un attimo di reindirizzare, no, un po' di rinquadrare questa deriva che in effetti c'è, okay, sta. Ok, i ricconi impuniti non vanno bene, andiamo su qualche altra cosa. No, ma al di là del riccone impunito, credo che serva un pochino di moderazione, quantomeno di facciata, perché hanno visto che il sovranismo esasperato non paga, perché poi alla fine... In una società paga nel breve, non nel breve, sì. Però sai che c'è, in una società in cui comunque contano le minoranze etniche, contano tanto. Guarda, gli Walter, la prossima volta ci metteranno uno uguale a Trump, se non Trump, però il genialata è farlo morire a metà mandato, così il breve se lo assicurano e poi dopo il vicepresidente che... Beh, gli americani ci sono riusciti tre volte, quindi, esatto. Questa volta addirittura con Biden cercano di farlo passare come cosa naturale, insomma. Diciamo che se Biden arriva a fine mandato saremmo tutti più che soddisfatti. Lui, ma che poi esageriamo, cioè, se arriva a 120 anni però, ma c'ha 78 anni, ragazzi, c'è un ictus, cioè non è che è il presidente più eletto più anziano, sì, della storia, però insomma 4 anni se li fa, dai, cioè nel senso, sì, però, cioè, noi abbiamo avuto Andreotti, de che è andato avanti penso fino a 90 anni, quindi insomma stava lì dalla costituente esatto, quindi cioè non è che, e anche lì segreti come se non ci fossero, no, lì ragazzi, io troppa roba si è portato nella tomba, Andreotti, l'ho detto, sì, nella scatola nera che aveva nella gobba, sì, esatto. Io l'ho detto, cioè lo stavo dicendo nella puntata scorsa di Buongiorno un cazzo, che io e Michela ci stiamo rivedendo ogni tanto piano piano la notte della Repubblica Zavoli, esatto, che praticamente c'è poi questa intervistona finale a Andreotti, dove praticamente si fanno quelle domande scomode cioè la cosa incredibile di quell'uomo non è tanto il fatto che lui, tu sai, che si porta dietro i segreti, che comunque è complice in quello che è successo nella questione di Aldo Moro e tutto via dicendo, le stragi di Stato, la parte dei servizi segreti, gli omissis, tutta quella merda che ha fatto parte dei 30 anni della nostra Repubblica, no? La cosa incredibile è il modo, cioè secondo me lì è per quello che lui è stato l'immortale, cioè il modo imperturbabile e garbato col quale lui deviava completamente, esatto, qualsiasi tu gli potevi sparare, lui con la mano scansava, però non lo faceva come magari fanno tanti politici oggi, stizzito, sempre in maniera garbata ma sempre col sorriso, cioè io ti sto a prendere per culo, cioè io non te sto... Che... Ragazzi, era un genio nel suo ruolo, ecco, una figura di uno ora al di là delle critiche a quello che ha fatto, aveva uno spessore tecnico e politico che qualunque politico di oggi se lo sogna, ma non solo in Italia, eh? Cioè, era veramente un genio Andreotti, e competeva in una vasca di squali i suoi pari che erano comunque presenti nella politica di quegli anni in Italia e all'estero. Oggi la classe politica è assolutamente di provincialotti e di urlatori e di imbonitori televisivi, non c'è più quel politico di razza che poteva essere lui, che potevano essere altri. Cioè, vi rendete conto che la situazione è degradata a livello tale che stiamo rivalutando Andreotti? No, rivalutando, no, dico come comportamento. Guarda, io se posso. Stiamo rivalutando Berlusconi, ragazzi. Cioè... Ah, figurati, Berlusconi che strinse l'occhio al governo Monti. Stanno rivalutando George Bush Junior. Cioè, fatevi un'idea. Vabbè. Però no, io non c'ho. Non, su Andreotti no. Guarda, posso dirlo su Craxi per certi versi, magari che forse ci possa avere una rivalutazione, ma su Andreotti no. La cosa veramente io non lo sto rivalutando, io però ne sto definendo le capacità. No, ma è quello che infatti erano... quello che dicevo io. Cioè, il problema è che oggi, cioè, io l'ho vissuto, no, in parte. Quindi seguivo un po' la politica. Allora, ma rivederlo oggi a 20 anni di distanza, a 30 anni anche di distanza, e vedere veramente con che sfacciataggine, con che però non te potevi incazzare perché ti disarmava, cioè lui era l'uomo nudo davanti al cavaliere armato, andava lì, gli levava la spada così senza che quello gli potesse di niente, cioè è una cosa assolutamente incredibile. Anche perché credo che ci fosse in quegli anni una forma di, chiamiamola, galanteria di facciata che impediva di incalzare in un certo modo. Beh, c'era un'educazione oggi, politica, insomma. Oggi non lo si fa per convenienza, però si avrebbero le armi dialettiche e la comunicazione televisiva e giornalistica ha raggiunto quel livello di interazione che permetterebbe di essere un pochino più schietti, un pochino più diretti, un pochino più sfacciati, non si meraviglierebbe nessuno. Non lo si fa, appunto, ripeto, per convenienza pratica, perché non siamo più di fronte a una classe di giornalisti, ma più di giornalai, direbbe qualcuno. Però in quegli anni quello che fermava quello che poteva essere l'interlocutore, ma anche quelli di alto livello come un Sergio Zauri piuttosto che un Enzo Biagi, era una forma di rispetto, di galanteria quasi, quasi ancestrale, che impediva poi di rispondere a certe manovre. Con... Sì, diciamo, per chiudere poi sto argomento, così che magari torniamo ai giorni d'oggi, diciamo che oggi... nessun politico si sarebbe mai permesso nel modo più assoluto a una deputata dell'opposizione, non sei manco americana, tornatene da dove sei venuta, cioè nel senso, a parte quelli che facevano parte del Movimento Sociale Italiano, che c'erano dei soggetti che te dico levate, però erano comunque il 3%, cioè c'erano il 3% una volta, era vedo? Pure troppo ed era pure tanto, diciamo che anche tra politici stessi non ci sarebbe stata una Grillo qualunque che avrebbe detto a un Padoan, che comunque è un laureato e un titolato, che parlava di finanza, quindi della sua materia, e questo lo dice lei, per dire, no? Cioè, c'era una forma comunque di rispetto dei ruoli, di comprensione di quello che è il limite proprio rispetto all'interlocutore. Oggi tutti pensano ad essere sto cazzo, di poter interloquire allo stesso livello con chiunque altro, e i disastri li stiamo vedendo, insomma. Guardate, ragazzi, vi ricordate Vogliamo i colonnelli di Monicelli? Credo di non averlo visto, quindi allora ti sei perso una roba meravigliosa. Non posso No, allora è un film, diciamo, che ha un problema di fondo. Sostanzialmente racconta il golpe borghese prima che fosse reso pubblico. Quindi, diciamo, e molte cose sono evidentemente quelle. Addirittura c'è una scena di un errore che viene fatto dai congiurati, che è avvenuta esattamente così. Il problema è che Monicelli non poteva saperlo. Comunque è la storia di un tentato golpe molto farsesco organizzato da un gruppo di estrema destra, insomma, con qualche problema di organizzazione. Tentato golpe di estrema destra che c'è stato, che in alla Italia, fine riesce, cioè... però non per per merito dei congiurati, ma per merito di un ministro dell'interno che non viene eletto, ma evidentemente democristiano, che approfitta della situazione che si è venuta a creare. Comunque, ma guardare, purtroppo ci siamo andati veramente vicini noi, insomma, negli anni 70 sta cosa. No, vabbè, Borghese fu, te lo posso, cioè, mi sono informato perché la cosa mi fece dire, fu effettivamente una farsa, nel senso che pensavano che nessuno sapesse, sapevano tutti. Lo sapevano tutti. Infatti, sì, sì. Appena hanno messo il naso fuori dalla caserma, li hanno acchiappati e riportati dentro. Quindi, insomma, è stata una roba anche abbastanza rapida. Noi abbiamo rischiato di più, forse perché non sapevamo che all'interno dello Stato c'erano dei corpi non propriamente trasparenti come Gladio e simili. Eh sì, quello, vabbè, quello che servivano teoricamente in caso di invasione, in realtà lo scopo era in caso di vittoria. Quello? Sì, sì, sì. Proprio lui. Siri, mi rovesci il governo. Queste cose qua. Beh, vabbè, comunque niente, dice che Conte c'ha la linea dura a Natale, eh? Cioè, nel senso, non ripeteremo l'errore di Ferragosto, niente, sì, vacanze, sì, sulla neve, e non mi fate incazzare, perché è una cosa proprio, mi raccomando. Il creatore sta già aprendo il bilionario a Cortina, guarda. Esatto. No, beh, è veramente ridicolo che la gente non voglia entrare ancora, malgrado tutto, in testa il concetto che questo è un anno che non potrà essere, no, neanche lontanamente. Io te l'ho espresso come, cioè, io il mio, e poi qui mi sto zitto perché così tanto parlate voi che siete un po' più per me non è che non l'hanno capito, per me veramente dietro ci sta veramente una manovra politica nel tentare di creare destabilizzazione da questo punto di vista. Cioè, io di stessa cosa non può essere altrimenti, ma lo vedo proprio nel modo in cui si comporta l'opposizione di destra, capito? Cioè... Ma Simone, io a parte che mi riferisco al di là di quello che dice, è chiaro che l'opposizione strumentalizza qualunque cosa possa strumentalizzare, però al di là di questo io lo vedo nei discorsi delle persone, della società civile cosiddetta, e comunque mi sembra che anche negli altri paesi d'Europa, l'avevamo detto anche nelle altre puntate, non ci sia un atteggiamento particolarmente diverso, e che i primi mesi di pandemia eravamo tutti spaventati e disorientati, ci abbiamo messo poco a abituarci ad uno stato di cose per cui siamo diventati insofferenti. E quindi una fetta di persone, di popolazione purtroppo non trascurabile nel numero, sarebbe disposta per il principio di farsi le vacanze anche a rischiare il Covid, come è successo poi anche in estate. Non lo so, io sono di quell'altro gruppo, quello che sta facendo fin troppi sacrifici, forse più del necessario, perché vuole tutelare i cari, vuole tutelare la situazione in generale, quindi... mi sono comunque rassegnato ad una vita un po' da monastero, io veramente, però non pretendo che lo facciano gli altri, però dico sempre, cerchiamo di trovare un compromesso di buon senso. Mi sta bene andare a cena dai parenti a Natale, ma il fatto che se quest'anno non si può, non, il fatto di non poter andare a sciare, insomma, non mi sembra il problema vero. Sempre che il tuo mestiere non ricada in quelli che saranno danneggiati dalla chiusura degli impianti sciistici, per loro capisco il problema, come lo capisco per tante altre attività, però in questo momento la soluzione non può essere far finta di niente e aprire le piste di sci. Infatti, ecco. Cioè, questo, tanto il problema c'è per tutti. È chiaro che ci sono probabilmente alcuni settori che verranno penalizzati più di altri, e se ricorrerà a qualche risorsa per aiuto a tutti, ma cioè, voglio dire, veramente... Ma io ti posso dire una cosa, è chiaro che non è questo che risolverà nel medio termine la situazione, però ho un amico che ha un bar danneggiato in parte dalla situazione, dico in parte perché comunque lui sta aprendo, chiude alle 18, non può far utilizzare le slot machine eccetera, quindi sicuramente ha una perdita parziale del suo fatturato. Beh, l'altro giorno lui, con una certa efficacia da parte del governo in questo caso, pochi giorni dopo le dichiarazioni dei conti, ha ricevuto 3.000 euro sul conto in banca, quindi qualcosa si sta facendo. Certo, non tutte le categorie sono aiutate, io sono contento del fatto in prima persona di stare riuscendo a lavorare comunque malgrado il Covid, perché al mio settore, al mio tipo di azienda, non è spettato dal primo giorno di crisi in poi neanche un centesimo, quindi non avessimo avuto la fortuna di riuscire a continuare a lavorare, io probabilmente sarei uno di quelli che farebbe passatemi l'esagerazione, la fila alla Caritas, però insomma mi rendo conto che la situazione è difficile per tutti. Comunque Facebook mi fa sentire questo video, ve lo propongo al volo, vedete se lo riconoscete, sarà un po' difficile, vediamo se lo sentite, perché col microfono, con la televisione, però sentite se vi ricorda qualcosa. Se me lo mandi a me te lo faccio sentire io. Sì. Io non sento niente. Ma manco io. Manco io. Gualdi, non ti sentiamo, Gualdi. Un giorno Gualdi. Spiegheremo a Gualdi come funziona un canale. La radio quella bella questa. Gualdi, mandalo a Pizzi, dai. Il bello è che adesso si è allontanato probabilmente anche lui dalle cose Facebook. Esatto. Marco, non abbiamo sentito niente. Mandami il link Facebook, mandamelo a me. Vabbè, ora te lo mando. Ci proviamo. È un grande classico. È proprio si addice alla nostra situazione, alla nostra chiacchierata di stasera. Molto tanto te lo giro, dai. Proviamo. Va bene. E ragazzi, notizie, altre cose? Giusto no, per. Più che altro volevo fare un appunto a sta situazione. Diciamo che spesso ci si riempie la bocca parlando della famosa spagnola, epidemia spagnola, eccetera, eccetera, senza approfondire troppo in realtà il fatto che è drammaticamente simile a quello che stiamo vivendo noi come situazione, come è stata gestita, altro, tutte le difficoltà che ci sono state. È una cosa che si è praticamente che accadde identica nel 1918. Mi era capitato proprio un articolo di recente, perché più o meno una stessa discorso che stiamo facendo noi, apertura o non apertura a Natale, ma voglio mangiare i parenti, devo fare che cazzo voglio io, si fece più o meno lo stesso, la stessa cosa più o meno che stanno vivendo già adesso gli Stati Uniti con il ringraziamento. Sì. E nel 1918, cioè, comunque movimenti no mask, e c'erano comunque stati dei movimenti no mask, dei movimenti di movimenti contro il film di Jim Carrey, infatti, sì. The Mask. Dei movimenti di negazionismo, e c'è stato comunque questo movimento nato dal popolo di dire: ma io al ringraziamento faccio che cazzo voglio io, che sono tutte queste restrizioni e altro. E infatti molta gente fece che cazzo vollero. Il risultato che l'ondata successiva della spagnola fu la più devastante di tutte. E quindi dicendo questo, mi sembra pure ovvio, no? Tutto sommato. Sì, glielo voglio appoggiare un pochino di più a Walter. Walter, te lo sei sentito? Perché senti come te l'appoggia. Non spingere però, dai, eravamo rimasti che non spingevi. Vabbè, ma sei tu che ti stai facendo col culo dietro, dai, non fare il... Comunque ragazzi, un secondo solo, perché in effetti questo è un pezzo di storia della televisione italiana. Cioè, è victim shaming. Un secondo solo. C'è la musichetta del merda sotto, ma me l'ha preposto Facebook, non potevo, cioè, casualmente. Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Bello, c'è il silenzio. And then there was silence. Presidente. Presidente. Apro il link d'acqua. No vabbè, cioè ragazzi, ma è una cosa che non ci diamo mai in puntata, vero? Immagino che sia sempre quella. È sempre quella, sì. Vabbè, Presidente, in effetti con la musica 404, lo schermo blu. Con la musica così è un po', cioè nel senso, così come è stato messo è un po' terribile, però vabbè. Vabbè, spieghiamolo, è l'apparizione al programma di Paolo Aperego di Andreotti, quando praticamente non è mai stato detto espressamente, ma credo di fatto ebbe un ictus, no? Come minimo un'ischemia. No, sì, no, lo disse, sarebbe un fenomeno ischemico transitorio, di qualsiasi una tia. E la cosa bella è veramente, e penso che, cioè, secondo me lì l'Italia si è spaccata in due, cioè tra quelli doie, e quelli che insomma dicono no, poverino, cioè, perché questa gli faceva sta domanda, che tra l'altro secondo me è la domanda che ha fatto, una domanda importante. È la domanda che gli ha fatto quelli di ischemia. Augura ai nostri giovani, ai nostri bambini, ai bambini. Lui ha risposto in questo modo. Lui stava praticamente, esatto. Era trasceso in quel momento, la sua coscienza stava facendo tipo, a me mi viene in mente tipo 2001 di Se nello spazio, tutta la scena psichedelica, è andata dall'altra parte dell'universo, è ritornato con la risposta. No, ma la cosa bella è che io mi immagino che lui stava sentendo dentro di sé questa domanda al rallentatore, e mentre che la sentiva diceva non me lo sta chiedendo, e quando lei ha finito di fare la domanda lui me l'ha chiesto, gli è partito lo schizzo di sangue al cervello, capito? è stata lei poi in realtà che l'ha ammazzato, capito? Cioè, che poi tra l'altro la cosa più inquietante non è la scena, questa la scena più inquietante per chi si ricorda questo evento, sì, è la scena dopo, quando dopo lo riportano in studio per far vedere che, cioè, sembrava come il dittatore, vivo, capito, che dovevi, come Deng Xiaoping là, come si chiama, no, Nyang Mung, quello, insomma, quello coreano, no? Un'interruzione un po' brusca dell'intervista con il senatore. No, ma la cosa bella è che all'improvviso, mentre c'era Andreotti che presidente, così boom, mandano di botto alla pubblicità senza che si è sentito in studio a microfoni spenti, presto portate il clone. No, ma poi la cosa bella è, sì, è vero che hanno fatto partire la pubblicità così de botto, però è vero pure che quel de botto ci ha messo tempo, perché lei due o tre volte ha detto presidente, e lei secondo me si stava a cagare, no, in mano. Pensate alla Perego, che secondo me stava dicendo: sì, Madonna, sì, se muore in diretta facciamo il botto. Oppure mi uccidono, chi lo sa? Cioè, no, secondo me lì in quel momento non stai a pensarci. Cioè, secondo me c'è il panico più totale con questo che guardate sopra. No, perché tu stai a pensare: se questo muore, potrebbero decidere di ucciderci tutti, di nuclearizzare l'area. Passiamo, esatto, in diretta, ci sono dei testimoni di questa cosa. Sì, perché lui a te è quello che teneva in vita tutti, fondamentalmente, con i suoi segreti, fino a che lui è stato in vita, noi eravamo tutti salvi. Eh sì, infatti lui era l'assicurazione nel suo silenzio imperturbabile, era una sorta di una forma di garanzia che poi è venuta meno. Chissà, io voglio sempre immaginare che esistano degli archivi segreti di Andreotti, che un giorno qualcuno troverà e scoperchierà, chi lo sa. Sarebbe affascinante. Io come va di avere un grande archivio. Beh, ma figurati se non se uno lì lui... l'archivio era lui, ragazzi. Cioè, ma al di là di quello che era in testa, ragazzi, però un personaggio di questo tipo, per rendersi anche meno vulnerabile, secondo me, delle riserve di sicurezza ce le deve avere, perché se ti tieni tutto in testa, è vero che sei tu l'archivio, però a quel punto interrompere l'archivio diventa semplicissimo. Interrompo te e tu dopo non hai più armi. Invece sapere che non lo devi toccare, perché altrimenti il notaio azzeccagarbugli della situazione potrebbe far uscire fuori su mandato un determinato documento o una serie di documenti, eccetera, capisci che fa ben più paura. Quindi, che ne so, io così la trovo, tra le varie teorie del complotto, trovo affascinante la possibilità che ci possa essere un archivio Andreotti sepolto, magari, che ne sai, sotto al Vaticano, tempo, sotto Castel Sant'Angelo. Secondo me, vi ricordate X-File, quando a un certo punto fregano l'uomo che fuma, perché gli dicono che hanno usato, invece che registrare le informazioni che hanno da qualche parte in forma digitale o cartacea che può essere distrutta, hanno usato gli indiani d'America, che hanno l'abitudine di tramandarsi le cose oralmente, e quindi lui non saprà mai quale indiano ha raccontato a quale altro. Tutto, sì, però oggi come oggi il trasferimento orale di informazioni non ha un valore legale, qualunque cosa trasferita oralmente è confutabile. Comunque, secondo me, di per sé non esiste un vero e proprio archivio Andreotti, secondo me esisteva il fatto che lui memorizzato, sapeva che il giorno in cui tu, americano, mi vieni a cagare il cazzo, io ti dico che se andate alla stanza numero 17 del palazzo e aprite il cassetto Y, c'è questa cosa. Cioè, è più probabile che lui sapesse dove erano dislocate determinate prove o determinate situazioni, piuttosto che lui avesse un suo archivio vero e proprio, perché sennò l'avrebbero già... Lo so, però ti ripeto, la sensazione è che per rendersi invulnerabile lui doveva avere dei piani B, perché altrimenti, ripeto, tutto quello che lui poi si è effettivamente portato nella tomba, per metterlo al sicuro bastava far sparire lui dalla faccia della terra. Secondo me una delle prove fondamentali è che lui era inconfutabilmente presente in ogni evento di cui magari avrebbe fatto l'accusa, no? Per dirti, cioè, ma ragazzi, lo sapete che c'ero anch'io. La prova è quello, insomma, poi alla fine, no? Nel senso che lui le cose le sapeva per fattore diretto, non lo sapeva perché gli venivano a dire. Potremmo ironizzare dicendo che in qualche modo Andreotti fosse contemporaneamente nel gruppo Bilderberg, nella cupola mafiosa e probabilmente anche a San Pietro. Cioè, era l'essere supremo di Schrödinger, cioè lui c'è, ma non c'è. Cioè, esatto, sì. come potrebbe essere morto o non essere morto, magari si è trasferito in dovremmo aprire la bara per esserne certo. Era lui contemporaneamente in tutti gli universi paralleli praticamente. Esatto. È affascinante in tutto sommato, anche perché è un'epoca diversa da quella odierna, in cui la politica, l'intelligence, tutte queste cose si facevano diversamente, secondo me anche in maniera particolarmente affascinante, ecco, vabbè, così da spettatore. Ma io so che ci sono dei quotidiani, che insomma sai quei quotidiani che sono nati perché volevano portare la rivoluzione, che alla fine si sono ridotti a parlare cose scoperecce, insomma, mi pare di aver capito. Ma uno a caso, tipo il Fatto Quotidiano, non lo so. Ma in realtà il Fatto Quotidiano ha riportato una notizia che credo sia stata lanciata in prima battuta da Leggo, che è questo quotidiano edito, se non sbaglio, proprio a Roma, che viene distribuito principalmente nelle metropolitane, eccetera. E la storia è praticamente di questi due vigili urbani di Roma Capitale, che sono stati sospesi e sono oggetto di indagine perché a quanto pare qualche settimana o qualche mese fa avrebbero durante il loro turno, in un momento in cui erano fermi e parcheggiati davanti al campo nomadi di Casilino, se non ricordo male, avrebbero praticamente, durante quindi il turno di lavoro, consumato un rapporto sessuale nell'autopattuglia. Hanno scopato, dai, che è il rapporto sessuale? Scopato, dai. Però pare in qualche modo, anche qui da capire meglio, che non si fossero accorti che c'era la radio di servizio accesa e che quindi l'audio della loro performance sia stato registrato da qualcuno in centrale e poi diffuso. C'è una mezza smentita da parte degli organi competenti. Oggi in realtà non è proprio una competenti, cioè. Hanno detto che questa è una notizia che stanno verificando, ma che è di diverse settimane fa, e si sta cercando di verificare la veridicità dei fatti. Anche perché le radiotrasmittenti della polizia funzionano tutt'oggi come funzionavano anni fa, cioè con il sistema per cui se vuoi parlare sul canale devi tenere un pulsante premuto, e se non lo premi quello può succedere, in qualche modo lo stava premendo, quello è fattibile, esatto, cioè nel senso quello con la gamba, esatto, bravo, esatto. Pensavo, mamma sì. Mia, che scena proprio veramente da commedia degli anni Ottanta, con non so, il pozzetto della situazione che, con Erich Fene e con Lino Banfi della situazione, non lo so, vabbè, comunque insomma leggere una notizia di questo calibro, di questo tenore, da un quotidiano che dovrebbe essere di matrice politica come il Fatto Quotidiano, effettivamente fa un po' specie, però oggi per qualche clic o per una mezza copia si fa di tutto. Mi pare che c'era anche un'altra notizia sempre dal Fatto Quotidiano, robe sempre simili, della tizia che gli hanno hackerato il telefono. Questa è una grossa notizia adesso, ma soprattutto chi era quella tizia, perché allora, non ha importanza. No, è la cosa più importante. Voi sapete chi è questa tizia, cioè Gwendalina Tavassi? Voi, senza andare a cercare su assolutamente Google, no, ma neanche la cerca. Perfetto. No, questa è la notizia. Noi non sappiamo chi sia e siamo contenti. Okay. Assolutamente contenti. Assolutamente. Allora, questa tizia, che ha mostrato un video molto concitato, dice che praticamente le hanno hackerato il cellulare, in cui dentro teneva i video hot con il marito, cioè mentre scopaggio col marito, da se facevano i filmini e gliel'hanno inculato. Mo voglio dire, tutta hackerata il cellulare stanno, insomma, vabbè, quindi da lì succede. Sì, chissà che è successo lì, perché insomma. No, scusate, ragazzi, io vorrei. Tutto a caso te hackerano, a me non mi hanno mai hackerato il telefonino, cioè nel senso. No, ma io mi chiedo da informatico, cioè vabbè, ok. Perché lo sanno che nel tuo non ci sono i pornazzi, Simone, quello è il discorso. Cioè, ma non è neanche così facile, cioè minchia, non ti fai l'autenticazione a due passaggi, metti come password il nome di tua madre, cioè come cazzo fanno ad hackerarti il cellulare? Ti arriva lì, me lo domando pure io, account, cioè dai, noi diciamo cazzate, questo è come il sito dell'INPS che vabbè l'hanno hackerato e poi indaghi per scoprire che avevano sbagliato a fare il reverse proxy quando avevano pubblicato su internet. Questo guardi, però guarda, sul caso dei cellulari dipende Carmine, potevano aver ciulato dal Dani, basta aver installato l'applicazione del cazzo sbagliata da Play Store, perché sai sul marketplace Apple c'è un po' più di controllo sulle app, mentre su quello Android un po' meno. Basta che te ne becchi una con un keylogger, sì. No, guarda, Però, cioè, se tu ti loghi, allora supponiamo che tu ti loghi, ti sei ciulato la mia password dell'account Google del mio cellulare Android, dove ci sono le foto tutto, su Google Photos, tutto il mondo, okay? Esatto. Per su Drive, i video su Drive, no, per dire, lascia stare, ok. Ho la mia, che ti ho detto, io ho l'autenticazione a due fattori, ho la chiavetta Fido, ma io sono paranoico. Una persona normale, boh, per come funziona, una guendalina, puccio, una guendalina, ma che cazzo c'ha? Sull'account di un'altra persona ti arriva comunque un'email, ti arriva una segnalazione sul cellulare, una notifica che dice effettuato accesso, non l'hai vista? Cioè, guarda, secondo me noi ci illudiamo del livello di alfabetizzazione informatica dell'utente medio. Ci illudiamo, sì, che sia molto, certo, più alto, no, di quello, vabbè, che non, sì, è. Sì, però Walter, dai, oggettivamente, ma tu quante persone hai conosciuto nella tua vita? O comunque quante notizie ci hai avuto nella tua vita che gli hanno hackerato il cellulare? A me... No, ma guarda che non è che sta dicendo che non è possibile, sta dicendo che tutte queste notifiche che gli sono arrivate probabilmente potrebbe tranquillamente non essersene accorta se fossero arrivate, perché secondo me non conosce, ma c'è tanta gente. Ma poi può essere anche tutta una serie di scuse per giustificare il fatto che nei prossimi giorni verrà fuori qualche video hard dei costei. Esatto. E starà cercando di giustificare come è successo. È successo così. Perché ma poi magari per errore l'ha caricato su un gruppo WhatsApp e il danno si è fatto. Share con qualcuno. Esatto, perché secondo me lei si è sbagliata e l'ha condiviso, perché insomma, e a quel punto mi hanno hackerato il cellulare, che questa cosa tra l'altro mi ricorda, e Gualdi se lo ricorderà, esatto, come Gualdi se lo ricorderà, il video del Neonodrom, del tizio che scriveva rubato il negro, no, ma non solo quello, lui scrisse su Facebook proprio nella sua bacheca: è qui che ci sono le puttane, e il figlio gli risponde sotto: papà, ma che cosa stai dicendo? No, scusa, non sono io, è il negro che mi ha rubato il telefono. Perché il negro poi, capito? Che poi gliel'ha riportato per fargli rispondere, certo, esatto, capito? Gli ha riportato, gli hai risposto. Fai uno scherzo. Vabbè, quando la pezza è peggiore del buco, insomma, però voglio dire, pulirsi il culo con la merda. E qui ci sono le bottane. No, vabbè, l'ex però comunque, commissario, sì, della Calabria ci ha insegnato che le pezze vanno sempre bene, fanno sempre ricco. Ma l'hanno trovato, ragazzi, l'hanno trovato. Droga? No, non l'hanno trovato, perfetto. No, ma volevo candidare io, oppure volevo candidare un amico che è un buon partito. Ma parlando di amici, non è un amico, se lo candida, insomma, comunque. Cioè, perlomeno non sei suo amico. Cioè, ragazzi, è stato più facile trovare gente che si volesse candidare a sindaco di Roma che non un commissario in Calabria. È molto più, è una bella lotta. Gente che brevemente fa da volontario per il vaccino, anche quello russo, probabilmente, però. Vabbè, so così. Comunque vorrei darvi la notizia della settimana, ragazzi. Posso? La notizia della settimana è che Mike Tyson, visto che deve affrontare un incontro di quelli promozionali molto amichevoli, ha deciso di abbandonare la dieta vegana che stava seguendo da un po'. Non immagino quanto amichevole Mike Tyson all'incontro. È molto amichevole, infatti lui ha detto che ha smesso la vegana perché non gli dava abbastanza proteine, adesso mangia solo carne di alce e bisonte, però sono vivi. Vivi, esatto. Li morde direttamente mentre pascola, partendo dall'orecchio, dal produttore al consumatore, dalle orecchie, partendo dalle orecchie, che poi dopo no invece, vedete, raga, io quell'incontro da bambino di notte con mio padre, capito, quel caso lo vidi in diretta mentre lo trasmettevo, mi ricordo quale televisione locale ha trasmesso quello lì. Beh, quello è un animale vero, comunque. Cioè, ma tu dici, ragazzi, il morso all'orecchio di Holyfield. Ma infatti a me mi fa ancora specie che questo va ancora in giro, poi. Cioè, questa è la cosa incredibile. No, vabbè, ragazzi, in realtà appare che, cioè, vabbè, ok, l'evento in sé, che molto è anche scena, è molto spettacolo. Però, vabbè, io mi interesso un pochino di box, non a livello appassionato tifoso di calcio, però leggendo anche le dichiarazioni degli avversari di Tyson, anche quelli famosi, in realtà sul ring è uno di quelli meno stronzi, ma di parecchio. Pensa ad altri. Vabbè, però certo, successo è stato così eclatante. È stato l'unico che ha fatto. Capito, anche perché, anche perché una volta la boxe era la nobile arte, capito? Cioè, nel senso, è salito questo. Diceva per KO, era tipo alla seconda ripresa. Cioè, ma secondo me se buttavano per terra. Erano tutti quanti organizzati da Dan King, quegli incontri. Vabbè, ma lui era già bruciato, era già fine carriera. Secondo me se buttavano per terra proprio per un piale botte, cioè, nel senso, dammi il cazzotto. 18 mi butto subito per terra, cioè non c'è problema, tranquillo. Tanti soldi piavano comunque, quindi. Eh sì. Forza. No, io invece, ragazzi, volevo, visto che era stata citata la Russia parlando del famoso vaccino russo, in realtà in Russia è successa una cosa un po' incresciosa. Non so perché questa cosa sia riportata da Blog Sicilia, però è una notizia. Per cui sette persone in Russia sono morte dopo aver bevuto un disinfettante per le mani. Quindi io mi sono immaginato. Vabbè, ma l'abbiamo verificata questa notizia, perché sai, Blog Sicilia, insomma. Guarda, la cosa divertente qual è? Io pensavo che fosse qualcosa in un certo modo legato al Covid. Tu pensi, vabbè, si sono bevuti la mucchina perché pensavano di combattere il virus. No, questi hanno bevuto il disinfettante per le mani dopo che l'alcol durante una festa era finito. Finita la vodka, se sono passati al disinfettante per le mani perché non c'era una macchina parcheggiata di sotto, se no bevevano direttamente il liquido al radiatore. Cioè, non lo so. Questi stavano nella Jacuzia. Cioè. Nella Jacuzia, la famosa terra delle vasche idromassaggio. Esatto. La camtaccia. Fatto sta che, insomma, sette ne sono morti e due sono in coma, da quello che leggevo. E, vabbè, insomma, la notizia è questa. Quindi ci sono queste persone che hanno bevuto il disinfettante per le mani il 19 novembre nel villaggio di Tomtor, nel distretto di Tattinsky, nella Jacuzia, appunto, come diceva Marco. Le prime tre vittime sono state una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni. I restanti manco sei ragazzini. Esatto. I restanti devono bere alcolici, sarebbero morti comunque, perché cioè, se non, i russi non bevono alcol, cioè, a cadenza regolare muoiono. Beh, ma è un fattore antropologico. Esatto, si arrugginiscono come il Fender. Esatto. Praticamente questo disinfettante, ragazzi, avevano il 69% di metanolo. Che obutti, ma che se scivola. Beh, una volta in Italia ci correggevano qualsiasi cosa con metanolo. Il famoso vino al metanolo degli anni 80. Buttare sì. Così tanto metanolo per pulirci le mani, ma sei pazzo. Che spreco. Facevano le pennette al metanolo negli anni 80. Esatto. Con la pancetta però. Qui salmone, parte subito salmone, per il sospetto. Vi rendete conto che questa roba noi ce la mettiamo sulle mani, ci disinfettiamo e invece è buona da bere? Non ce lo dicono. No, scusate, mi avete ricordato che io nella vita ho lavorato con l'unico russo astemio, credo, dell'universo, in questa realtà, in questo universo. Che poverino, cioè vabbè, Yuri lavorava con me in Telecom Italia. E una volta ci stavano sfottendo perché tutti e due eravamo astemi. E Yuri ha dato una risposta che io non credo dimenticherò mai. Cioè mi ha guardato gli altri e ha detto: sì, io però ho già bevuto tutto quello che potevo bere nella vita. E ti è andato via. No, è anche vero, bisogna dire la verità, che c'è un limite particolare di quando sei ubriaco, tra il sei ancora veramente molto ubriaco e sei svenuto, dove veramente puoi fare qualsiasi cosa, cioè nel senso, non, secondo me c'è un momento in cui non te rendi proprio conto e la prima stronzata che ti viene in mente pensi che sia divertente, invece potrebbe essere il cicchetto prima del cometilico, praticamente potrebbe essere quella fatale. La What's Your Mother si chiamava ubriaco bambino. Cioè, se hai fatto una cazzata e dovevi indovinare se eri ubriaco o bambino. Sì, ma perché quando sei ubriaco, ma ancora in grado di sostenerti in piedi, perdi i freni inibitori, perdi anche spesso e volentieri, perdi anche l'istinto di conservazione. Proprio non te ne frega un cazzo. Sì, perché anche. Sì, beh, c'è sto rischio. Tutto rallentato, non senti anche il dolore, pure un anestetico. Quindi qualsiasi botta la senti dopo un quarto d'ora, se la senti, quindi. No, tempo fa c'era un Kickstarter per un'applicazione di cellulare, in pratica la dovevi attivare se decidevi di andare a bere fuori con gli amici, e prima che tu potessi, finché l'applicazione era attiva, quindi potenzialmente fino a quando tu eri ubriaco, dovevi risolvere tipo dei puzzle prima di accedere alle app di messaggistica. Sì, ciao Core. È la maniera. Perché stabiliva la tua dare messaggi alle ex o dire roba imbarazzante di cui ti saresti pentito il giorno dopo. A questo punto scoperchiamo un vaso di Pandora. Raccontatemi se avete il coraggio, facciamo una botta alla Rantem de notte. La cosa più assurda che avete fatto da ubriachi. Ho vomitato e cagato allo stesso tempo io. Ah, cioè, ma quello penso che succeda un po' a tutti nella vita almeno una volta. Cioè, proprio proprio la stessa botta depressione. Tu l'hai voluto sapere, io te l'ho detto che... No, no, vabbè, per carità. O eri in piedi? No, no, stavo sul cesso. Ah, vabbè, allora dai. Stavo sul cesso, sì, sì. Perché sentivo che stavo... Perché se stavi a vomità del cesso, cagato. Oppure ho pitturato di rosso, di arancione le scarpe nuove di una ragazza, quello sicuramente. Beh, fantastico. Mamma mia. Vabbè, di tendenza l'arancione. Eh sì, era una cosa... le punte, però. No, io non ho assolutamente memoria di questa cosa, mi è stata raccontata, ci sono le foto, però prima del digitale, erano delle Polaroid, durante un concerto a Bari organizzato da un gruppo politico in cui partecipavo attivamente pure io ubriaco a merda e probabilmente non solo. Ma chi tu? Hai detto che non hai mai bevuto in vita tua? No, io ho smesso di bere. Ah, ok, ok. 25 anni, ma prima no. E io completamente ubriaco e forse non solo, ma non aggiungiamo altro, ho parlato per 12 minuti con Giovanni Lindo Ferretti e non mi ricordo assolutamente niente. Se bisognerebbe chiedere a lui se si ricorda qualcosa. Di me che parlo con Giovanni Lindo Ferretti, questa cosa per me non è mai avvenuta. Se non avessi visto la foto... È lì che lui è diventato di destra, di la verità. Ho detto, ah vabbè, ho capito, vabbè. Io ho memoria del concerto, ho memoria di essere stato portato dietro al palco perché l'avevamo organizzato noi, mi ricordo vagamente di averli visti e poi non ricordo più niente. Guarda, ci sono i tuoi figli vicino a te? Sì, in questo momento. Sì, sì. Vabbè, uno c'ha 11 mesi, l'altra ha iniziato a bere pure lei. No, no. Ragazzi, ho questa storia da raccontare che non è mia in prima persona perché probabilmente... Allora non vale, non vale, scusa. No, però è molto divertente perché io, quel giorno con un altro amico ho salvato una vita, però. Perché un terzo amico, ubriaco a merda, appunto, come dice testualmente, tecnicamente, Carmine, con in mano un pacchetto di sigarette ancora sigillato, si è... affacciato ad una coppia di ragazzi, lei e lui, lei molto carina tra l'altro, e lui un energumeno, e nella sua testa lui probabilmente voleva chiedere a lei in maniera simpatica di aprire il pacchetto di sigarette, e la guarda e le fa: senti, mi hanno detto che tu stucchi i filetti. Ora io non so se fuori da Roma questo termine è chiaro. Fatto sta che il ragazzo lo ha guardato come per dire: Se ubriaco a merda, ma io adesso ti ammazzo. Fatto sta che io e un altro amico, ognuno abbiamo infilato un braccio sotto una delle due ascelle dell'amico e l'abbiamo portato via di corsa. Dico, scusa, è ubriaco. Abbiamo portato via tipo scena da cartone animato. Però quel momento è stato una delle cose più assurde della vita mia. Poi ha detto con uno sciavanz: scusa, mi hanno detto che tu stucchi i filetti. Ma guarda, ragazzi, l'eleganza è sempre importante. Comunque, prima di tutto, tu guardi invece che hai fatto quando... Ma io cose imbarazzanti no, alla fine. No, tu sei un po' una palla, insomma. Io al massimo svengo, a parte prendere una bottiglia e cercare di uccidere un americano qualche tempo fa, ma a parte quello no. Spacco bottiglia, ammazzo famiglia americana. No, a parte quello no, però possiamo raccontare, Pizzi, tu c'eri testimone di quella volta che al matrimonio di una nostra amica in Irlanda è successa una cosa simile a quella di Walter, in cui c'era questo ragazzo che andava importunando ragazze, sì. E noi siamo andati a salvare il matrimonio e mi ha detto: guarda, se noi gli menano loro, gli menano noi. Esatto, alla sposa gli ha detto: guarda, tu cugino sta a fare delle cose assolutamente inopportune, ti conviene che lo fermi perché secondo me gli irlandesi lo menano, ma se non lo menano gli irlandesi stai tranquilla che lo menamo noi, perché insomma era veramente indecente. Ma sempre schiaffi sono, sì, no, quello... ma c'è sempre in questi contesti quello che si deve far riconoscere, non manca mai. Vabbè, questo era un po' stupido proprio di suo, cioè, penso che chiaro, quando non ci arrivavo, arrivi a quel livello. Io sono sicuro che ci sta ascoltando perché mi ha mandato un messaggio prima, ma volevo ricordare a Michele che tutti si ricordano del matrimonio in cui, ubriaco a schifo, sei svenuto e hai fermato la mano del medico che ti voleva fare un'iniezione di non so che, gridando: no, it's against my religion. Bene. Così. Vabbè, io ritornerei ad OGM perché insomma, sennò poi dopo diventano tematiche da notte. Ragazzi, parlando un po' di serie TV, di cose, perché è uno di quegli argomenti leggeri che ci piace tanto. Io sto guardando un sacco di cose in questo secondo lockdown. Sto guardando cose più delle cose che avevo guardato durante il primo lockdown. Anche cose che non avresti voluto vedere. importante. Ah, sì, non down, c'era YouPorn gratuito. Ah, forse era per quello, dici, ero distratto da quello. Vabbè, era durante Pornhub, Puccio, Pornhub. Scusa, vabbè, tendo a confondere. Vabbè, penso che YouPorn non esista manco più, non so. Ne voglia. Esiste. Che ne so. Esiste sempre, i grandi classici non tramontano mai. Ma non era stato comprato tutto da Pornhub? Che Pornhub avesse monopolizzato. Ma che c'entra? Guarda, Tecnocasa e anche Tecnorete, noi siamo... E anche Tecnopils, volendo. Esatto, cioè bisogna differenziarsi, anche se si è avversari, comunque si raccoglie più pubblico, cioè chi gestisce raccoglie più pubblico. Quindi... Vabbè, è come Philip Morris che non c'ha soltanto Marlboro, ma c'ha anche altre marche di sigarette. Esatto, esatto. Tanto il drogato lo trovi comunque, il porno dipendente lo trovi comunque, dai, dai. No, invece dicevo, ho visto anche diversi film, devo dire che ho colmato finalmente una lacuna che mi... colpevolmente portavo sulle spalle da un paio d'anni, perché non avevo ancora visto Grand Budapest Hotel e l'ho visto finalmente ieri, e devo dire che è un film veramente veramente divertente. Questi film un po' sui generis a me piacciono tanto, e devo dire che Grand Budapest Hotel, se non l'aveste visto, fatelo perché merita. Invece non so cosa ho visto, oggi raccontavo a Pizzi il fatto che ho visto la prima stagione di The Hunting of Hill House. Perché? Ma perché c'è una seconda stagione? Poi, no, è che siccome hanno fatto una seconda stesura, una seconda iterazione che hanno chiamato The Hunting of Bly Manor. Ma è un'altra cosa quella. Sì, è un'altra cosa, però lo hanno voluto incastrare in una sorta di continuità. È un po' come... Ah, l'hanno accorpato praticamente. No, io pensavo che fosse proprio una cosa completamente distinta. No, tant'è che Hill House non si chiama più solo Hill House, ma si chiama The Hunting of Hill House, perché hanno... The Hunting of è diventato una specie di serie antologica, quindi la prima stagione è ambientata a Hill House, la seconda stagione è ambientata in questo Bly Manor, che probabilmente è anche ambientato cronologicamente in un'altra epoca, non l'ho visto, quindi non lo so. Però insomma, è rimasto un po' male perché c'era un cast interessante, però è una serie che poteva tranquillamente essere raccontata in un film o magari in una miniserie di 2-3 episodi. Parli di Hill House adesso. Di Hill House, esatto, perché va bene approfondire. Sì, è un'occasione sprecata, Diciamo che è una serie che si dilunga molto. Noi, no? Sì, con sì. La cugino. Sì, sì, con, sì. Carla, con la cugino di Carla, esatto. Sì. Okay. No, sì, cioè una cosa che era quello che volevamo che qualcuno prendesse a pizzettoni qualcun altro. Sì, sì, perché a volte non succedeva proprio niente. Sì, sì, sì, no, esatto, ci sono degli episodi interi che non succede niente. Vabbè, ma questo è un vizio che Netflix c'ha in svariate serie. Ma sai, se è motivato da un qualcosa che comunque... Il problema è... Allora, il problema è che il trailer a me mi aveva creato un grandissimo hype. E comunque si chiamava The Hunting of Hill House anche prima, cioè nel senso, poi dopo probabilmente evidentemente ci avevano in mente già di fa, perché mi sa che ce ne so, sì, varie serie con queste questioni della casa infestata. Comunque secondo me c'è un dibattito tra me e Gualdi, perché secondo me il focus della serie era la malattia mentale, secondo Gualdi il focus della serie era invece disorganizzato e disorientato. In effetti secondo me è una serie lenta, noiosa, che è venuta male, e tutto quell'hype, quell'aspettativa che io c'avevo, in realtà, anche se c'ha dei colpi interessanti, cioè, ma no, ma qualcosa carina c'è là. Il problema è che l'80% è riempitivo per arrivare a 10 puntate, quante sì, sono state. È abbastanza inutile, cioè, fondamentalmente. Poi dopo alla fine non arrivano mai queste cose che te fanno venire i brividi, e poi quando arrivano oramai te sei già talmente scazzato che c'è il fantasma, sì, sti cazzi, cioè nel senso che e poi secondo me, come hai detto tu Simone, come dicevamo prima, l'interpretazione è bivalente, il significato finale si presta alla preferenza dello spettatore, perché sì, potrebbe sì. Esserci la chiave di lettura più psichiatrica e quella più soprannaturale, a seconda insomma della preferenza. Sì, la serie va su tutti e due i fronti, in modo che poi a seconda della sensibilità magari dell'interesse della persona, poi alla fine ci stanno i fantasmi, cioè, ma non è che sei matto. Sì, però non è detto che ci sono. Sì, ma erano tutti matti, capito? Qual è il problema, esatto, Marco? Cioè, nel senso, giustificati dalla follia delle persone. Erano tutti schizofrenici. Esatto, quindi alla fine non lo sai che quello che stanno a vedere vedere, però tu dici vabbè, ma come fa uno schizofrenico a vedere la stessa cosa che vede l'altro schizofrenico? Come fa a vedere quello morto, soprattutto tu che sei morto, che vedi, cioè è proprio palesemente, alla fine si butta sul paranormale. Sì, sì, diciamo che poi si cioè, è la cosa peggiore, secondo me, se lo tenesse tenuto un più ambiguo. È vero, sì, su questo sono d'accordissimo al 100%, perché poi alla fine comunque un po', cioè nel senso, nel voler rimanere in equilibrio, alla fine poi non ci riesce, quindi secondo me non si capiva proprio bene dove volevano andare, insomma, e questa è stata la più grossa delusione, che invece c'avevo veramente un grosso hype. Io invece ho visto The Crown, l'ultima stagione. The Crown, esatto. È appunto The Crown. Che racconta ovviamente... Questa stagione è una storia molto più vicina a noi, perché c'è Lady Di e c'è la Thatcher, quindi devo dire che rispetto alle altre stagioni dove approfondisce molto di più anche i contesti storici, in questo caso va molto più sul leggero, forse perché ci avviciniamo a contesti politici e storici molto più vicini a noi. Però agli anni 80, che comunque era il decennio della frivolezza per certi versi, eh. Sì, diciamo, a me questa è la stagione, la serie più che altro, che stanno bestemmiando i media inglesi in questo periodo, perché ci sono un sacco di, tra virgolette, cazzate nella... Sì, sì, è molto superficiale, drama. Secondo me... No, cose inventate proprio. Cioè, inventate... inventate, sono romanzate, perché... aveva un'anima, giusto? Ma no, in realtà fanno passare la Thatcher come una pazza psichica. Cioè, allora... Cioè... Beh, no, non è sbagliato, cioè... Tutto è costruito fino ad arrivare al momento del declino e del fallimento della Thatcher, no? Quindi questo tradimento che lei praticamente la fa cadere praticamente in disgrazia, però praticamente la disegnano come una pazza psicopatica, cioè nel senso... No, ma Simone, cioè, perdonatemi, sì, però oggettivamente aveva le allucinazioni, non era, non lo so, per me non governi in 12 anni una nazione come il Regno Unito se sei un pazzo, cioè, nel senso... Sentite, io farlo 4 in America, se esatto, sì, sì, anche 8. Sì, però quelli sono 4, ma quello è 12 anni, ragazzi. Cioè, 12 anni significa almeno 3 elezioni su 3. Comunque ci sono. Allora, in questa stagione in particolare ci sono degli eventi che non sono mai esistiti, tra cui una lettera dello zio di Carlo, in cui lui praticamente lo ammoniva di accannare la storia con la babbiona, che non è mai esistita, è una cosa completamente inventata. Sì, ma è probabile. Tant'è che infatti molti tabloid sono stati accusati di... hanno accusato la produzione di mandare in giro notizie completamente inventate. La produzione si è giustificata con però è un'opera di fantasia questa, per cui noi abbiamo un po' arricchito. Quindi hanno, hanno detto sì, allora ci può anche stare. Il problema è che su una serie che in realtà fino adesso ha fatto dell'approfondimento anche storico, del background, è questo che si sono incazzati, fine... anzi hanno chiesto di mettere come disclaimer sulle puntate, sull'ultima delle puntate, che questa è una storia di fantasia, bla bla bla. No, invece l'unico disclaimer che ci sta, e ci sta solo nelle puntate in cui il focus è su Diana, il disclaimer sulle malattie relative ai disturbi alimentari, e quindi ci sarebbero state scene forti che avrebbero potuto suscitare la sensibilità di qualcuno, perché c'è lei che magna e vomita praticamente. Poi io qui non entro, perché io non ho mai conosciuto la storia di Diana, devo dire, non ho manco neanche mai simpatizzato per lei. La cosa bella di questa serie, secondo me, è che nelle scene topiche storiche io me le ricordo, e il modo in cui sono ricostruiti i vestiti, sono ricostruite le sequenze, devo dire la verità che hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Per il resto sì, è veramente la più leggera delle stagioni, cioè secondo me non approfondisce niente, non approfondisce i problemi con l'Irlanda, non approfondisce il disastro che ha creato la Thatcher all'interno della nazione, non approfondisce neanche la guerra Falkland, insomma... Diciamo, ma in realtà faccio una domanda da persona che non ha ancora visto la serie, e che non, oggettivamente non so se e quando la vedrò, perché tra le tantissime cose è una di quelle che ho lasciato da parte. Ma la domanda è: teoricamente il titolo The Crown è soltanto pretestuale per raccontare una storia più ampia, o è comunque tutto incentrato sulla figura della regina? Racconta la storia dell'ultimo secolo della famiglia reale. Della famiglia reale in generale, però lo racconta nel contesto storico, cioè non si esime comunque da raccontare eventi e situazioni all'interno di quello che è la storia della Gran Bretagna degli ultimi 70 anni, 80 anni, 100 anni, insomma. Quindi alla fine, ragazzi, proprio giusto perché me lo sono ricordato, ce l'avevo sotto mano, Alan Moore, inglese, l'autore di Watchmen, di V for Vendetta, nel 1988 marzo scriveva l'introduzione di V for Vendetta. Scrive a un certo punto: siamo nel 1988, la Thatcher sta iniziando il suo terzo incarico di governo e parla fiduciosa di un'interrotta leadership dei conservatori fino al prossimo secolo. Mia figlia minore ha 7 anni e i tabloid stanno diffondendo l'idea di campi di concentramento per le persone malate di AIDS. La nuova polizia antisommossa indossa visiere nere come i cavalli e sul tettuccio dei cellulari sono montate videocamere ruotanti. Di recente un membro del governo ha espresso il desiderio di estirpare l'omosessualità persino come concetto astratto e posso solo fare ipotesi su quale sarà la prossima minoranza contro cui la Thatcher legifererà. Penso di prendere la mia famiglia e andare via da questo paese. Prima o poi, magari entro un paio d'anni, è diventato freddo e cattivo e non mi piace più. Beh, poi sta cosa se la sono ritrovata, poi ha scritto, se la sono ritrovata 30 anni dopo, sì, poi sì, sta sì. Storia, perché comunque oggi hanno rivissuto comunque un periodo abbastanza simile che li ha portati a fare delle scelte di cui oggi si incominciano a pentire, tra l'altro, diciamo anche no, questo. No, ma insomma, io, scusatemi, quando si parla della Brexit, di quello che sta succedendo adesso, guardate che l'origine è quella. Eh sì, sì, beh, lei era antieuropeista, lei non era una conservatrice. Perché all'epoca l'Europa manco c'era in un certo senso, quindi... No, c'era, perché c'era tutto un discorso sull'Unione Europea che invece il resto del partito conservatore, e infatti gli è andato contro proprio perché loro erano europeisti e volevano continuare a stare all'interno dell'Unione, cioè nel senso comunque c'era già sto discorso, sto dibattito in atto con la Thatcher, ma ricordavosi che la Thatcher più che conservatrice era una vera e propria fascista. Cioè proprio era una persona che, a parte di solo no, ma veramente la discriminazione politica e razziale per lei era all'ordine del giorno. In questa serie, ora io non so quanto sia vero questa cosa e tendo insomma diciamo un po' a dubitarne, però lei fa tutto il discorso del fatto che il padre era sempre stato un uomo forte e quindi lei riconosceva soltanto la forza nelle persone e non aveva misericordia né pietà per nessuno, compreso il suo popolo che si trova in difficoltà. Cioè lei diceva: se una persona si trova in difficoltà e in povertà, si deve alzare e si deve rimboccare le maniche, vaffanculo. Questo era un po' il concetto che viene espresso da... Politicamente era così, poi dopo quanto lei fosse così marcata io non lo so, però insomma è una pazza scatenata per davvero, eh. Cioè io in questa serie raccontano il discorso del come sono riusciti a fare in modo che il Regno Unito applicasse una sorta di sanzioni verso il Sudafrica, quindi contro l'apartheid e roba del genere, perché lei non accettava minimamente il fatto di scrivere sanzioni sul testo che condannava il Sudafrica rispetto a tutto il resto del Commonwealth, che 49 volevano sta cosa e lei era l'unica che diceva di no, e quindi senza unanimità non potevano produrre il documento. Ecco, questa è storia, cioè nel senso stiamo parlando comunque veramente della donna, insomma, che alla fine è veramente durata l'inverosimile, troppo. Fino a che ovviamente anche il partito conservatore alla fine gliel'ha fatta proprio più. No, che poi tra l'altro, cioè, lei è caduta proprio perché persino il partito conservatore si è rifiutato di votare una legge che danneggiava le famiglie con disabili, cioè. E soprattutto quello fu il caso Sbelli. Voi sapete, che lavorata dietro prima, però. Diventa capo del governo il segretario, quindi il leader del partito di maggioranza, no? Quando lei poi si è ripresentata per ricandidarsi alla leadership del partito, lì l'hanno silurata tutti, cioè proprio, e lì allora lei non c'ha avuto altro che scelta di dare dimissioni dicendo che erano tutti traditori, che la nazione l'aveva tradita, cioè, ma era una pazza scatenata comunque. Cioè, raga, io aveva anche una certa età quando si è ritirata dalla politica, c'è da dire, quindi tutto sommato. Beh, comunque io ho visto The Crown, tu hai visto Hill House, che ti ha deluso, c'hai ragione. Ho visto anche, sto guardando, perché è una di quelle serie che guardo un episodio ogni tanto, Dark, serie tedesca. Mamma mia, poi ragazzi, io alla terza stagione c'è una di serie nord-europee su Netflix, la maggior parte delle quali siamo a livello di distretto di polizia, però insomma, vabbè. Ma non è solo quello, il problema è, a parte la, la bruttura più o meno scenica dei personaggi, il problema è che proprio le storie a un certo punto vanno proprio a cazzarella, cioè non, non, secondo me non puoi andare a giocare in un campo dove non c'hai esperienza, no? Questo è il discorso. Se vuoi fare la diciamo che tendenzialmente sono prodotti pensati per i mercati di riferimento, poi Netflix si trova e fa un calderone unico, però ma a me quello che... mi sta anche bene, perché sono curioso di vedere, cioè io le serie, cioè tipo The Bridge, quella serie danese svedese che era un poliziesco, quella era carina, cioè nel senso era fatta pensavo bene su una partita a carte. Ma no. The Bridge non è quella che poi è stata fatto il remake inglese con Tennant, ovviamente, cioè, sì. grande quella è grande, però dai, però cioè, è una bella serie, però il concept, capito, è comunque scandinavo, no? Quindi alla fine sì. Scusate ragazzi, ma tornando più alle cose di casa nostra, qualcuno di voi ha visto una puntata di Doc nelle tue mani con Luca Argentero? Ma anche no. No, perché vi giuro, ho visto il trailer, la prima cosa che ho pensato è stata Medical Occhi Dimension. Occhi del cuore, sì, Medical Dimension. No, Medical Dimension. Probabile. Francesco, tu che hai visto questo periodo? Io, aspetta, prima... guardate questo colpo di maestro, mi riaggancia una notizia, diciamo che un qualcosa che stavamo parlando prima con una notizia molto discussa, adesso mi riaggancia a quello che sto vedendo, cioè prima si parlava comunque di hackeraggi di telefoni e altro, non abbiamo citato il fatto che il Papa gli è sfuggito il pollicione sul like su Instagram. Porca a puttana. Una modella brasiliana, cioè. Porca puttana, stanno praticamente facendo, stanno praticamente, hanno creato un praticamente una task force di indagini su questa situazione, ma manco fosse un caso di pedofilia. Guarda, sì, no, come se fosse Papa Francesco veramente a gestire il suo Twitter, poi tra l'altro, no? Sì, o il suo infatti. Instagram, cioè, però senso. Se ci fosse un pedofilo che praticamente si ha un circolo di bambini dentro lo IOR, probabilmente avrebbero meno sì. No, vabbè, ma questo l'hanno fatto per mettere un cattivo dire, luce. Una cosa che mi è venuta in mente a me, ma non è che di mezzo c'è il cardinale Boiello a fare sta cosa? Grande cardinale Boiello. E questo mi aggancia al fatto che, vabbè, sto recuperando proprio, ma proprio da The Young Pope, che proprio mi mancava, e mo' sto quasi a metà di New Pope, che di quest'anno. Bellissime, grande, tutte e due, bellissime. Gran bella serie. Gran bella anche serie. Se la prima, secondo me, è artisticamente più audace, cioè nel senso, anche visivamente, anche registicamente, secondo me era più audace, però sono belle tutte e due, veramente grandi serie, insomma, grandi lavori. Ma la seconda c'è John Malkovich, ragazzi. John Malkovich, sì, ragazzi, bellissimo. È un sì. Valore aggiunto. Fa tanto, è vero. Però come trama, mi ricorda il mio attore preferito, bella. John Malkovich. Beh, ma quello è un pezzo geniale. Cioè, cioè, ricordo il mio attore preferito. Ah no, lei mi ricorda il mio attore preferito, perché era lei che glielo dice a lui. John Malkovich. Sì. Grande. Lo dice Sharon Stone, no? Chi glielo dice? Perché poi lì c'è quel momento in cui appaiono Sharon Stone. No, Sharon Stone appare dopo. Ancora non l'ho visto, quindi devo guardare la quarta stagione. E allora non ti dico niente, perché pure quello è un bel pezzo. Non spoileriamo nulla. Infatti. No, io non era non Marilyn. Era Marilyn che io dicevo. Marilyn Manson. Ragazzi, salutiamo Mr. Snart che ci ha appena raggiunto e ci dice salve gentlemen. Ciao Snart. Ma chi lo fa fare? Benvenuto, esatto. Sentite, io inaugurerei una nuova rubrica, che è quella insomma di cui abbiamo già parlato in precedenza. Io ho fatto anche una specie di così, no? Ho trovato un asset. No, non ho fatto la sigla, ho trovato un asset che potrebbe essere interessante. Tipo, potrebbe fare così, una cosa del genere. OGM presenta il riassunto dell'imperatore a cura di Lobby Frontali. Vai Francesco. Ma ormai lo chiamiamo Francesco, abbiamo scoperto. Vabbè, io mi piaceva così, dai. Non so. Snart ci domanda: ma di che cosa si occupa questo microspazio nell'immenso oscuro mondo del web? Te lo diciamo dopo la rubrica. De stronzate. Comunque sì, stronzate. Vai Francesco, vai con il riassunto del nostro imperatore Massimo. Che ovviamente è il governatore. Vai. Che è Massimo De Luca, il famoso critico giornalista sportivo, no? A parte che dopo parliamo. Lui cosa ha avuto a che fare? Che ha avuto a che fare anche con un altro Massimo, ma di ben più bassa caratura, diciamo. Allora, io puntualmente il venerdì alle 14:45 dovunque sto mi devo vedere lui, assolutamente. Stiamo parlando ovviamente dell'imperatore dell'attuale imperatore del regno delle due Sicilie, ossia Vincenzo De Luca. E stavolta di nuovo è stata di nuovo un'escalation che davvero non ha risparmiato nessuno a destra. Strano, tutto e tutti. Strano, eh. Innanzitutto se l'è presa con vari membri del governo, praticamente accusato spadafore di nuovo di sciacallaggio. La parola di stavolta, la parola chiave di stavolta era sciacallaggio, l'hashtag staccallaggio. Ricordiamoci che lui è in quota PD, quindi in teoria lui fa parte di questo governo, ricordiamolo, perché ogni tanto uno potrebbe distrarsi. No, ma pure lui non se lo ricorda. Relativamente in quota PD, in realtà è in quota sua e basta, cioè se si può così permettere, tra virgolette, di fare così. A parte il fatto che ha avuto a che fare soprattutto con la cosiddetta commissari, diciamo, che gli sono stati inviati dal governo da Speranza, dicendo comunque la solita pagliacciata, la solita cosa, la solita sciacallata. Poi di nuovo ha risposto un pochino alle accuse che dicono che comunque non si capisce mai dal fatto che viene sempre a cosa che si sta sempre a litigare con a Napoli, diciamo, sempre sull'attribuire, non si sa chi attribuire, diciamo, la responsabilità di misure attuate o meno attuate, quindi delle continue diatribe che ha con De Magistris o De Magistris, come a volte viene chiamato. Le ha detto: ma nessuno sta litigando, qui c'è solo una persona a Napoli che litiga con se stesso. Comunque De Magistris, per citare come De Micis. Sì, ha detto che è assolutamente una nullità, quindi ha dato mi sembrava strano, infatti. Bonafede ha detto che più che Bonafede lo vedo bene come ministro Buonanotte. Poi ha rinnovato di nuovo l'invito a Di Maio di un dibattito serio e tranquillo su Rete Pubblica in diretta, cioè senza aggiungere altro. Cioè ormai ho detto tutto su di te, non resta altro che un dibattito. Ma infatti il problema è questo: sta finendo gli argomenti e sta diventando anche lui, come dire, ripetitivo, sta diventando un disco rotto. Però sì, vai. No, volevo raccontare, non so se avete poi visto, io ho visto solo uno spezzone oggi, non mi guarderei mai, non mi sogno anche lontanamente di guardare l'Arena di Giletti, però vedevo un estratto oggi e in cui De Magistris praticamente si è in qualche modo alleato a Giletti nell'ipotesi in cui De Luca dovesse querelare Giletti, perché c'era questa minaccia nell'aria, e De Magistris ha detto di considerarlo tra i querelati, quindi cioè, De Magistris, che pur di andare contro a De Luca si allea a uno che politicamente dovrebbe essere molto lontano da lui, visto che comunque sia le simpatie di Giletti sono palesemente in quota. Guarda, leghista, c'è molta, insomma, confusione in campagna, sì, c'è molta, sì, confusione, vabbè, infatti. Tanta. Ma un po' dappertutto, un po', però a noi ci manca un po' insomma... ci manca solo che Berlusconi si mette a far tifo per il governo, così, capito? Ma guarda, sta lì, no, a me, cioè, nel senso, mi manca un po' il De Luca dei lanciafiamme Sì, non è più divertente, prima era appassionante, adesso non sa più neanche lui cosa dire. Ok, Francesco. Sì, a parte il fatto che si è accusato un pochino, come diciamo l'altra volta, questa curva U che adesso va contro il governo, contro queste misure della pezzatura dell'Italia dei vari colori, dice che più che zona rossa è una zona rosé, dice qua c'era uno o due negozi chiusi, praticamente dice la responsabilità, dice che più che altro questo, l'effetto che stiamo subendo è quello delle misure che già aveva attuato, perché come sempre la campagna ha fatto un miracolo. Ecco un'altra parola che ripete spesso: un miracolo, noi abbiamo compiuto un miracolo, noi, mentre il governo mentre il governo imparavano come si accendeva il fuoco, noi già costruivamo lanciafiamme, praticamente noi già si accoltellava Giulio Cesare. Eh già. Esatto. Allora, già creato che se nella prima ondata la campagna ha avuto il miracolo, perché non è che è dipeso da lei direttamente, per qualche motivo, per una serie di concause fortunate, il Covid non è stato aggressivissimo nella prima ondata nei confronti della campagna, ma come anche del Lazio, come nel Lazio, esatto, cioè, Nella seconda ondata invece stanno arrivando e sono arrivati anche con gli interessi, e quello è il problema. Tant'è. E gli interessi sono sempre tanti. Zona rossa. Certo. Scusa? No, no, gli interessi sono sempre la parte più interessante alla fine, perché sono quelli che salgono sempre esponenzialmente, di solito, quindi. Sì, esatto. Oh. Comunque, esatto. Ritornando al fatto che hai detto tu, hai citato il buon Massimo Giletti, buon sto cazzo all'Arena, che comunque ha cominciato a snocciolare numeri su numeri, dicendo che praticamente non c'è chiarezza sui numeri per quanto riguarda i posti in terapia intensiva, altro, e anche sui fondi che sono stati dati dal governo, praticamente, perché la regione Campania diceva che praticamente era stato di c'era stato emesso un comunicato alla regione Campania che erano stati dati 163,8 milioni di euro di fondi al governo erogati quindi a favore delle campagne, che però se ne conto alla regione non sarebbero mai arrivati. Giletti inizia a dire, scopre, inizia a dire che lui sa che in realtà ne sono molti di più sti soldi, quindi circa 178 milioni per ristori e mancati tributi, 120 milioni per la chiusura di un contenzioso, quasi 30 per anticipo liquidità e 46 per sospensione mutui, quindi circa 621 milioni più i famosi 246 milioni di fondi confermati a Palazzo Santa Lucia. Quindi e a questo poi ci si è attaccato pure il De Magistris, dicendo che comunque non c'è chiarezza queste cose, anche, ha accusato anche il come si, vengono gestiti i cosiddetti ospedali modulari, cioè questi posti letto pronti al bisogno, diciamo, disponibili al bisogno. E poi ha fatto tutta la paternale su questo fatto che qui ci si gioca, qui c'è gente in terapia intensiva, ci si ammale, muore, qui c'è della gente cinica che gioca coi numeri per non incorrere a sanzioni, questo e quell'altro. E, boh, sì, sicuramente non avrà tutti i torti per alcune cose, però è sempre Massimo D'Alema, quindi piuttosto che dargli ragione, Massimo Giletti, scusate, ho detto una cosa, una bestemmia. sì, ma proprio, che dargli ragione, sono rimasto un po' basito, infatti, perché dico che c'entra D'Alema, insomma. Francamente, vabbè, no, io volevo dire una cosa, scusate, volevo leggere un commento di Mr. Snack, sì, perché sì, è molto interessante, poi diciamo non lo riusciamo ad approfondire, soprattutto adesso che siamo a fine puntata, però ma soprattutto noi, che è la cosa un po' più bella. E poi noi non abbiamo questo spessore intellettuale e intellettivo, però ci domanda: secondo voi ci sarà mai un cambiamento radicale della politica italiana? Non parlo di conflitti o ribaltamenti, ma proprio un cambiamento nella gestione politica e sociale. In realtà i cambiamenti continuano ad esserci, che sono peggiorativi. A noi servirebbe un'inversione di tendenza, ma con il livello culturale medio verso il quale andiamo, quello che vedo all'orizzonte non è particolarmente guarda se, però... se io interpreto bene il senso della domanda, è se ci sarà mai un ribaltamento nel modo di gestire la nazione, che secondo me è una domanda che va un attimo prima capita e poi dopo forse ci si può anche ragionare, insomma, su una risposta, perché è complessa, è molto vasta, dipende anche da quello che intendo io per tipo di cambiamento della gestione sociale e politica, perché magari io la penso in un modo, tu la pensi in un altro e lui la pensa in un altro ancora, insomma, quindi sai, è una domanda specifica, ce la portiamo a casa e promettiamo di analizzarla, ecco, magari ci ragioniamo per la prossima puntata, che potrebbe essere. Va bene. Vai, volevo concludere però mi sono salvato alcuni commenti durante la diretta Facebook, che sono le cose più belle, immagino. Cito questi, sì, allora tanto sono in chiaro, posso citarli, faccio anche i nomi, non ho paura. Mario Lucio Falcone scrive: io già ho messo le mascherine alla Sacra Famiglia e i Re Magi sono distanziati. Se me ne vado in balcone, ma posso mangiare i struffoli? Chi non sa cosa sono i struffoli? Sono quei dolci, quelle tipo palline di fritte ripiene di miele, di palline. Ricoperte di miele. Ricoperte di miele. Poi, segue la a Roma è la cicerchiata, ma alla fine è la stessa cosa. Ah, buona la cicerchiata. Invece Raggio Nera scrive: ormai appuntamento fisso con Macca Rosella, per me non ha tutti, vale, esatto, vale pure per te questo. Oh vabbè, c'è gente che scrive: le scuole devono restare chiuse, aprite le scuole mezza aperte mezza chiuse, vabbè. Poi c'è Gabriele Pianese che scrive: vince, vedo più te che mia moglie. ecco. E che poi potrebbe essere un bene, potrebbe, dipende, e poi infatti. Concludo con Ivan Robustelli che scrive un solenne preside a capocchia, ecco. No, però effettivamente mi viene da dire che De Luca dovrebbe fare un po' di nel suo interesse dovrebbe fare un po' di sottoesposizione, nel senso che ormai è sovraesposto, parla troppo e non ha più argomenti sostenibili, quindi se vuole andare oltre il governo di una regione in una carriera politica un domani, secondo me si deve dare un attimino una rinquadrata. Secondo me c'è stato un momento in cui avrebbe potuto, poi dopo secondo me si è fatto un po' prendere la mano, sì, faccia pure sì, ha perso un po' il controllo della situazione. Però sta cosa, uno degli ultimi commenti che ha detto Francesco mi ha fatto ricordare il fatto che qui nel mio palazzo c'era una famiglia di coreani, mamma e due ragazzi che sono cresciuti praticamente qui a Monterotondo, perché oramai erano più di 20 anni che stavano qua e le faceva la guida turista per coreani a Roma. Per un po' di tempo hanno provato... Ma Pietro, dici per caso? Chi è Pietro? Uno dei due con nome italianizzato si chiama Pietro? Mai saputo come si chiamavano, nessuno dei tre. Cioè, probabilmente li conosco. Cioè, nel senso, io ogni tanto un saluto, una cosa cordiale, però da come tutti i coreani erano molto chiusi, molto, molto particolari. E hanno provato a resistere chiaramente perché la madre lavorava, faceva la guida turistica, poi si sono cominciati a vendere le cose, la macchina e tutto quanto, e hanno preso e praticamente si era capito che stavano a sloggiare per tornare in Corea. E praticamente parlando con la nostra vicina di casa, praticamente sta signora gli ha detto: ma io sai, dopo 23 anni ritorno in Corea, sono sposata da tantissimi anni con mio marito, però sono 23 anni che non ci vivo più con mio marito. Quindi la situazione è un po', capito, un po' di quelle che secondo me solo i coreani possono fare, insomma. Vabbè, detto questo, le culture asiatiche sono stranissime. Sì, però... sì, però quella coreana in particolare, ne parlammo tanto tempo fa con Max Fierro, ex nostro amico, insomma, no, amico in teoria lo sarebbe ancora, però non ci sentiamo praticamente più, ma lui già da anni viveva in Corea e ci raccontava una società veramente molto più complessa di quella giapponese, perché è molto più rigida proprio e alcune regole, è più sorvegliata, non a caso riescono a sconfiggere il COVID con l'abbracciamento, cioè... perché per loro la ma quella non era Singapore, la cultura della sorveglianza, eh? Non era Singapore quella, no, sì, può essere, sì, no. Però ecco, ma anche tutte e due. No, la cosa se non ricordo male, a Singapore l'app di tracciamento non funziona bene, in Corea del Sud invece funziona bene. Poi ricordiamo che Singapore era obbligato, ti regalano un proiettile quando l'hai. Sì, che poi Singapore ricordiamo che è una dittatura rispetto comunque a Corea del Sud, che in teoria sarebbe una sì, ma è una dittatura che ha portato benefici al paese. Stanno benino a Singapore. Beh, quello stavano comunque. Cioè, alla fine quello che moralmente, diciamo, i giapponesi considerano dei valori morali in alcuni casi in Corea so legge, quindi diciamo ci sono delle cose sulle quali non si scappa, insomma, è abbastanza particolare, tant'è che basta vedere i film di Kinky Duke e via dicendo, insomma, che ti rendi conto di una società abbastanza amara da quel punto di vista. Io direi a questo punto di andare dall'amico nostro Mando in una galassia lontana lontana. Mando vai, quanto sono belli sti tamburi, ragazzi. A me la colonna sonora, il sound della serie mi piace da morire. Dunque parliamo. Vai. No, dicevo, c'è un'epicità già dalla sigla. Molto. Ogni ingrediente molto. In questa serie è stato messo nel modo giusto. Beh, ma molto meglio che nei film. John Favreau si vede. Mano di Fabrosi. Ma più che altro c'è proprio la cura tecnica, insomma, di un lavoro fatto, progettato dall'inizio alla fine nei minimi dettagli, dal punto di vista tecnico, registico, dal punto di vista del sound, della musica e tutto quanto. Quindi ricordiamo, insomma, che veramente si parla del vero Star Wars alla fine, tutto sommato, no? Sì. E continua, insomma, la storia. Che insomma, diciamo, io torno sempre a dire che dal punto di vista spettacolare è veramente una delle cose che non vedo di vedere, perché è proprio bella da vedere. Dal punto di vista narrativo insomma, vabbè, è semplice, cioè nel senso è molto basico. Certo, cioè, nel senso, semplicità non... proprio anni, tendenzialmente anni 70, c'è 80. Una trama principale, pochissime sottotrame, poche divagazioni, ma è anche giusto perché sono episodi dalla durata variabile, 30 minuti, molto brevi, 30-40 minuti. Però sì, la cosa bella, cioè, da questo episodio, nella sua semplicità, sta facendo il miracolo di ricucire praticamente alla lore che si è costruita nel corso degli anni con The Clone Wars e Rebels e altre cose, con finalmente la trilogia sequel, quella che abbiamo avuto la fortuna o sfortuna di vedere negli ultimi anni. Infatti, perché non si è mai capito sto cazzo dei Primo Ordine, da dove cazzo si è uscita, da dove si è uscita Darth Sidious, eccetera eccetera, e qua si inizia a vedere una certa cucitura da queste due comunque residui dell'impero che continuano a muoversi organicamente e cercare di riorganizzarsi, e questo, vabbè, c'era anche un po' nei libri, diciamo così, anche prima. Si vede meglio comunque da che ci azzecca Baby Yoda, che diciamo cosa che ecco, avrà potuto avere nel bravo, in quello che poi si è visto nei, bravo, infatti sta puntata secondo me poi alla fine ci fa anche capire che cosa cercavano, insomma, da Baby Yoda, no? Che alla fine cercavano il sangue, poi fondamentalmente che evitano nel modo più assoluto di nominare, chiamandoli il fattore M, esatto, sì, il principio M, una cosa del genere, però è vedi, il principio M ci sta, hanno evitato di dire la parola midichlorian, che io lo apprezzo molto come cosa, insomma. Io l'unica cosa che veramente non comprendo in questo in generale su Star Wars, già l'ho detto in altre occasioni e continuano a dirlo, è il fatto che anche se sono passati 5 anni da un evento, nessuno si ricorda niente, cioè, anche in questa serie parlano dei Jedi come di una cosa successa migliaia d'anni prima, mitologica che nessuno conosceva, e la stessa cosa poi l'hanno riportata, no, perché loro sono nell'orlo esterno, cioè viene spiegato all'inizio. Tu dici le informazioni gli arrivano piano. Dici. No, in realtà, questa cosa nei libri, ma anche quando, cioè prima del canone nuovo, prima quello di quando c'erano il vecchio universo espanso, quello che ora si chiama Legends, questa cosa veniva, insomma, non particolarmente, però veniva approfondita, cioè veniva spiegato che la galassia è molto grande, ci sono pianeti, interi settori, quello che viene chiamato l'orlo esterno, che della Repubblica, della vecchia Repubblica, aveva notizie molto frammentarie, comunque si vedeva poco. L'impero li ha toccati, è stata una forza di invasione, ma non si è concentrato molto su di loro. Non l'ha mai dominato. Non li ha mai dominati in pieno. In più, comunque, anche le visite di personaggi molto importanti come i Jedi o altre figure di quel tipo erano rare, erano figure molto lontane, quasi leggendarie. Quindi ci sta che. Ma lontane, lontane. Quindi ci sta che molte cose in quelle zone non arrivassero. Tra l'altro, cioè, questi stanno oltre Tatooine, sono proprio l'orlo esterno, cioè la terra selvaggia, il Far West. Navarro, sì, ma stesso pianeta, se non sbaglio. Sì. E comunque, ragazzi, ma quanto ci si è incicciottita, ci avete fatto caso? Cara Dune, sì. La Gina Carano. Gina Carano che c'è proprio... Questo, diciamo, pare che sia quanto lo chiama Rina Tilli. Esatto. Sta lievitando proprio. Pare credo sia incinta, ragazzi. No, ma che c'è? No, è sempre stata così pienotta. No, sempre. Sì, allora, però. Che decostituzione. Che decostituzione lo era, sono d'accordo. Però sì, dai, raga, cioè proprio esplosa. Sta provocando qua capo alla produzione, perché sta avendo delle uscite abbastanza incongrue sui social network. Secondo me la mandano via. Scusa, la Carano, Mask negazionista del Covid. Vabbè, tutto qua. No, secondo me la mandano via, infatti. Cioè, già che è esplosa in quel modo. Vabbè, comunque stavo parlando del Mandaloriano, poi ci parliamo di Discovery. E niente, poi è carino il fatto che la lezione a scuola con quello, l'androide che spiega l'orlo esterno, Coruscant e tutto quanto, allora mi domando, vabbè, ma allora se ci stanno le informazioni, perché non conoscete chi sono i Jedi? Cioè, se continuo questa cosa, a me che comunque mi stona sempre, ma in generale diciamo che il fenomeno del Jedi è talmente del jedismo eclatante, che jedismo, non può, il jedismo, che non puoi non sapere chi sono, anche se stai ai margini della galassia. non è una percezione che si può essere persa, perché non sono passate generazioni e perché comunque, anche se siamo su pianeti remoti, abbiamo a che fare con tutta una serie di personaggi che nella lore hanno un certo peso e che i Jedi li conoscono bene. Lo stesso personaggio di Cal Walters, la stessa Cara Dune, gli stessi Mandaloriani, eccetera. Insomma, sì, capito? Cioè, tu stai a parlare di gente che ha fatto parte della Resistenza e che però sti Jedi non sa chi cazzo sono. La Resistenza uno c'è stava dei Jedi. Ho capito, ma la Resistenza. Vabbè, dai, su, raga, non sta a prendere per culo per difendere la lore di Star Wars. Dai, c'è cioè, sta cosa pure nei film. No, ma pure nell'ultimo film dove c'è stava Harrison Ford, là, che ragazzi, tutti dicevano. Ma la devo dire, sta cosa. C'è un libro che è uscito di recente. Non me ne frega un cazzo dei libri. Non me ne frega un cazzo dei libri. Cioè. Si chiama Le leggende di Luke Skywalker. È scritto da un bravissimo autore di fantascienza che è Ken Liu, che è un sino americano che vi raccomando come utile. Chi è? Un? Ken Liu, sino-americano. Cinese-americano. Ah, ok, un sino-americano. Che cazzo è un sino-americano? Fantascienza si è prestato per un libro che però è una raccolta di racconti a Star Wars, che lui comunque ama, e in pratica fa vedere come in tanti pianeti diversi gli stessi eventi sono stati raccontati in modo diverso. E i ruoli che hanno avuto i vari personaggi, o quello che hanno fatto, o addirittura chi erano, cambia a seconda della zona dove ti sposti. Quest'idea di fondo a me piace, perché è vero che l'universo di Star Wars è talmente grande che ci sta che su un pianeta molto lontano, pensate ad Anakin Skywalker bambino quando arrivano Obi-Wan e Qui-Gon, lui è un dei Jedi che è profondamente sbagliato. Scusa, ascoltami un attimo, Puccio. Io posso capire che in una galassia così larga e dispersa non ci siano le notizie fresche, che tutti non siano informati. Addirittura posso pure capire che i pianeti poveri non se ne fottono il cazzo di quello che succede. Però noi non stavamo a parlare del oh, ma è caduto l'impero e c'è la Repubblica, sì o no? Qui stavamo a parlare comunque dei Jedi, cioè di gente che sta lì da migliaia di anni e che comunque ha aiutato la galassia a funzionare. Allora, sta cosa non... Tutto pochi sono stati dappertutto, quindi su ogni pianeta hanno un'idea diversa di cosa sono. Sì, però dai, scusa, non può essere, una, capito? C'è anche una strana... È complicato. C'è anche una strana disuguaglianza, perché se da una parte i Jedi si vedono poco, nessuno li conosce, alla fine il Sith lo trovi sempre, perché anche Moff Gideon mica non è un Sith. No, non è un Sith Moff Gideon. La spada sta cercando di diventare. Allora, tutta la storia del sangue dei midichlorian parte da una sottotrama che si è sviluppata in Clone Wars e che si è vista parzialmente anche in Rebels e che sta spiegata in altre fonti. Vi ricordate il multibraccia che si vede Grievous è un ex signore della guerra di un pianeta giungla che è stato individuato dall'imperatore. Non è sensibile alla forza, però era particolarmente violento, all'imperatore piaceva. In lui che aveva subito un incidente, è stata tentata l'infusione del sangue di un Jedi, di Sifo Dyas, quello che era sparito. Sì. Okay? E in parte ha funzionato, difatti lui riesce a manovrare le spade laser al di là del corpo robotico. Ovviamente però quello è l'unico caso che è andato bene, perché poi l'imperatore racconta che altri tentativi di infusione di altri Jedi con cui lui aveva combattuto erano finiti malissimo. Quindi bisogna trovare la combinazione tra donatore e ricevente. Secondo me il Moff che stiamo vabbè però non è solo l'utilizzare la spada laser che determina se sia un Jedi, è della forza, e difatti Grievous parzialmente la ha, e viene spiegato. Il problema diventa che secondo me il Moff sta cercando di farsi infondere il sangue di Baby Yoda. La spada che ha, quella nera, viene da Rebels, viene spiegata in Rebels che cos'è. È una delle poche spade laser mai impugnate da un Mandaloriano. Ma c'era pure in Kotor comunque. Come? C'era pure in Kotor la Darksaber. Uguale, cioè è l'unico Jedi l'unico maestro Jedi Mandaloriano che è esistito, aveva quella spada, che è la Darksaber. È arrivata al Moff, non sappiamo come, perché l'ultima volta che l'abbiamo vista era nelle mani dei Mandaloriani della Resistenza, e poi era finita nelle mani di Sabine, un personaggio di Rebels. La mia sensazione è che il Moff stia cercando di diventare sensibile alla forza, e quindi di diventare il nuovo imperatore, probabilmente con la trasfusione del sangue del bambino. Che però per adesso si guarda bene dal fare in prima persona, perché d'altra parte... Ho notato che il processo ancora non è... Però stiamo vedendo questa sorta di Dark Troopers che potrebbero essere i precursori o comunque sia una... Vedremo. Insomma, la trama, il mistero si infittisce, la trama diventa interessante. Un episodio fighissimo. Sì, anche se posso dire una cosa, cioè, Mando è un coglione. Cioè, diciamoci la verità. Cioè, che veramente sembra che non è mai uscito di casa. Cioè, nel senso, in un contesto come questo tu non controlli mai se ti mettono una spia, una microspia, radiofaro, roba eccetera, te inculano sempre, cioè, rigorosamente te inculano sempre. E questa è un po' la cosa che un po' mi scura. Vabbè, ma lui segue la sua via e altre cose probabilmente le ponderà di meno, non lo so, però insomma ci sta anche per creare un po' di bilanciamento, perché altrimenti... proprio per il suo modo di risolvere determinate cose in maniera così brillante diventerebbe poi un personaggio troppo forte, troppo complicato da gestire in una trama in cui poi qualcosa deve anche andare storta. Poi per hanno liberato l'astronave in 10 minuti e 43 secondi, magari non si poteva neanche mettere a controllare. Vedi, potrebbe ci hanno messo un radiofaro. Per me il difetto di questo episodio, che nel complesso era molto stato, è stato proprio questa sorta di buco temporale. Loro si spostano per andare alla base dell'impero per farla saltare, eccetera. Si capisce che il tempo trascorso in viaggio non è stato particolarmente lungo, e lo si capisce ancora di più perché lui, quando deve tornare di corsa in città per salvare il Jedi, lo fa solo col jetpack che ha sulla schiena, quindi evidentemente era un tiro di schioppo un punto dall'altro. E malgrado questo i meccanici sono riusciti nell'episodio a trasformare la Razor Crest da un colabrodo totale a nuova fiammante, e questo secondo me è un errore. Si poteva evitare. Vabbè, no? È sempre Star Wars. La gestione del tempo dell'ultima stagione di Game of Thrones. Delle ultime due stagioni, perché mi ricorda molto l'episodio quando vanno a cercare di recuperare oltre la barriera il non morto. E praticamente ci sono sti corvi che piottano come degli ossessi. Praticamente anche Daenerys che arriva piottando col drago all'improvviso. Beh, diciamo che c'è pure. Che va Mach 3 è giustificato il corvo. Sì. Diciamo che un po' meno lei che sopravvive a Mach 3, diciamo così all'aperto. Diciamo che c'è sta anche il fatto della puntata precedente, il fatto di non poter usare l'iperguida e di spostarsi da un sistema all'altro a non si sa quale velocità. Cioè, pure sta cosa, insomma, un po'. Subluce dal sistema a un altro. Quanto ci hai messo? Esatto. Cioè, nel senso, pochi minuti. Dai, quella pure è un'altra stronzata, insomma, però vabbè. Cioè, non andiamo a contare. Però la recensione Uber della donna rana che vi avevo postato era bellissima. Sì. No, comunque devo dire che è carino, dai, cioè, mi piace, sì, comincia ad averci anche un infittimento della trama, ma ribadisco, poi comunque glielo concedi, perché non è comunque quello che fa una storia profonda allo scopo di sta serie. La domanda è: secondo voi muore Baby Yoda? No, che poi sarà ora di trovargli un vero nome, perché questo può trarre molto in confusione, perché non è Yoda, solo che ecco, questo lo dici te. A meno che non è risuscitato. Che poi noi lo chiamiamo Baby Yoda, lui lo chiama Gesù, Baby, cioè lo chiama il bambino, cioè nel senso, gli ha dato manco un nome. Cioè, The Baby, sì, lui, proprio perché non è ancora definito, non è voluto che si capisca chi possa essere questo essere. Maschio, se femmino, non ragazzi, niente. Noi della specie di Yoda non sappiamo niente, sappiamo solo che hanno due sessi, perché nella trilogia prequel si vede Yaddle, quindi una razza di Yoda, sappiamo solo quello. Per il resto non sappiamo se si riproducono con le uova, se crepano e resuscitano, se sono come i Trill, non lo sappiamo. Bisogna vedere se lo hanno deciso o meno. Era stata scritta una backstory di Yoda, però è diventata non canonica. Peccato, perché era bella. Ecco, ma visto che hai nominato un Trill, vogliamo fare il salto dal piano e andare a Discovery? E vai, va. Qualità di sto file è al limite dell'indecenza, comunque. Vabbè, ma tanto non ci serve solo per introdurre. Giro Danberry, ci perdone. Esatto. Ed eccoci qua con Star Trek Discovery, la terza stagione. la terza di una, qua, di, una qua, di quattro stagioni per ora sappiamo, di almeno quattro, insomma, di almeno quattro. Sì, che è stato confermato, che comincia insomma a dipanarsi, anche se c'è questa timeline abbastanza verticale ma sottile, senza andare molto sulla continuity, ma andando su questi episodi autoconclusivi un po' frammentati. Non c'è un villain per ora, quindi, cioè, nel senso, abbiamo capito che qui c'è una quest reale, non c'è un nemico da sconfiggere, insomma, quindi può essere che la quest è la cosa più complessa, insomma, la cosa la più particolare è trovare il nemico da sconfiggere. Esatto. Anche se, ma cercando, anche se c'è quel gioco tra impero terrestre, non impero terrestre della Georgiou, che bisogna vedere un attimo come sfocherà, insomma, sta cosa, perché insomma qualcosa succede, no? Cioè, tipo, diciamo che per il momento la quest sembra essere risolvere gli effetti sulla psiche di questo loro salto di mille anni in avanti, più che ogni altra cosa. E dobbiamo rimanere col dubbio, rimarremo col dubbio secondo me fino all'ultima puntata della stagione, almeno io ho questo dubbio, di capire se abbiamo fatto un balzo soltanto nel tempo o anche negli universi, perché chi lo dice che stiamo nell'universo canonico in questo momento? Chi ce lo dice? Non lo so, non ce lo dice nessuno. È vero che i registri che loro hanno potuto ricostruire fanno riferimento a fatti successi nell'universo canonico, quindi probabilmente in qualche modo o sono ancora lì o c'è un rimescolamento delle carte. Dobbiamo capire, perché nella trama è stato citato questo evento misterioso, cioè tutto il dilitio a un certo punto ha preso ed esploso, e quindi sostanzialmente qualcosa che può aver ha smesso di funzionare. Solo? Sì. No, l'hanno chiamato il grande fuoco. Cioè, allora, tu calcola che il dilitio è quello che regola la reazione materia-antimateria. Togli il dilitio, la materia e l'antimateria non è più regolata, esplode tutto. Quindi sì, però siccome che il dilitio di per sé è diventato rarissimo, evidentemente ci deve essere stata una conseguenza. Era già raro, infatti stavano cercando di sviluppare nuove forme di cioè nuovi mezzi di propulsione, perché comunque stava diventando sempre più raro. Quindi già stava in carenza, poi praticamente gli si è disintegrato tutto con le esplosioni, quindi puff. Comunque c'è stato nella puntata in cui insomma Cronenberg lì intervistava la Georgiou, che secondo me è stato un momento sottovalutato, ma è un momento focale di questa stagione, perché comunque c'è questo interesse verso di lei, e c'è il momento in cui lui gli dice che da allora, cioè tipo da quando lei è sparita, l'universo imperiale praticamente si è distaccato notevolmente dall'universo loro praticamente, e che non si registravano più passaggi da 500 anni. Quindi diciamo che tocca capire un attimo sta cosa, perché sì, ci sono stati buttati dei semi per quelle che potrebbero essere serie spin-off, come trame che dovremmo capire. Il discorso è che anche qua siamo arrivati a, credo che entrambe le serie, il Mandaloriano sono 8 episodi, quindi siamo arrivati al giro di boa questa settimana, ma credo che anche a Discovery, che è iniziato una settimana prima, se sono 10 episodi, sono 12, allora siamo a 12, sì, quasi al giro di boa, quindi insomma è arrivato il momento di cominciare a quagliare, perché se continui a mettere pastura poi non ti tirerai mai sulla rete. Non è detto che deve finire per forza questa stagione, cioè è capace che per carità, sicuramente qualche trama appesa rimarrà. Secondo me a fine stagione capiranno più o meno che cosa è successo con The Burn, prossimo anno dovranno cercare di risolvere un possibile nuovo Burn, che cacchio ne so, cioè, non so che cacchio si devono inventare. Non lo so. Capiranno che c'è un cattivo dietro tutto questo, un qualche impero, un qualche cosa. Che poi dice che non è neanche detto che dobbiamo ricorrere allo stereotipo del cattivo di riferimento. Cazzo, non è che ci dobbiamo mettere un canno ogni volta. Può esserci una serie di eventi che non devono essere determinati da un singolo cattivo che influenza il corso delle cose, non è detto. Comunque, Mr. Snart dice che a lui Star Wars non gli è mai piaciuto, e guarda che non è una cosa così grave, tutto sommato. No, tranquillo. Questo mo cacciate subito. No, comunque, io l'unica cosa che dico è che in questa universo, cioè in questa ricostruzione, dove la federazione è chiaramente e ovviamente per motivi logistici anche per motivi pratici è in difficoltà, ridotta solo a 35 pianeti su 350 nella massima espansione. E la cosa che mi piace è il fatto che comunque abbiano ricostruito un po' quello che si vedeva rarissimamente nei film quando c'era Kirk, ossia praticamente un quartier generale che affrontava problematiche, cioè nel senso che comunque diceva che c'è su Nobulus, ah c'è sta l'epidemia, andate a risolvere l'epidemia, che c'è sta su Cazzo Imperius, ah c'è sta la carestia, però questo è affascinante perché in realtà fa vedere quello che è sempre stato un po' la funzione della federazione, che alla fine noi lo davamo per scontato ma nessuno capiva, cioè, alla fine ma perché uno deve stare alla federazione, no? E quindi e c'è questa lotta di Michael nel far capire che laddove si riuscisse a capire che cosa è successo col grande fuoco, sicuramente si potrebbero risolvere, insomma, tanti problemi che oggi limitano la federazione e che la tengono in questa condizione così precaria, no? Cioè nel senso, quindi una nuova rievoluzione, e poi la quest è quella, ricostituì la federazione fondamentalmente. Quindi e il problema è che in uno spazio così vasto, che però non è più raggiungibile nei vari settori così come era prima, certo diventa tutto un po' più complicato, no? Quindi devo dire che di per sé ricorda Pizzi, poi ricorda Mass Effect molto Mass Effect, ma in realtà secondo me degli spunti ce l'hanno già dalla prima stagione, però dico, e qui chiudo il mio con i portali esplosi che non possono più viaggiare a velocità, esatto. Infatti è, cioè nel senso c'ha delle, vai scusa Sbano. No, io volevo raccontare questa perché, lo sapete, l'ho espresso altre volte, io ho sempre questa mia, chiamiamola crociata, nel cercare di capire perché e per come gestiscono le uniformi in Star Trek. Allora mi manda in gran cappella a me, cioè io ho capito quello che vuoi dire. Vabbè ragazzi, rassegnatevi. Cioè, siamo mille anni avanti, abbiamo definito che adesso siamo in quel contesto, date anche a loro le uniformi adeguate, perché stanno continuando Così distingui i viaggiatori temporali? No, non si accetta, ma neanche dalla seconda stagione si accetta. Ma se io mi devo integrare, perché mi devi hanno fatto pure il meeting alla Voyager. La prima cosa che hanno detto è: abbiamo fatto delle implementazioni alla nave adesso e non gli avete cambiato l'uniforme. Sì sono d'accordo però, io su sta cosa, sì assolutamente. Perché? Ne manda in cappella. Hanno un contratto per 4 stagioni, comunque vi posso dire che a me le uniformi perché l'hanno pagate e gli sono costate, quindi adesso comunque ragazzi, a me le uniformi della Discovery piacciono. No, ma non sto entrando nel merito di se sono belle o sono brutte, anche a me piacciono, però sono diverse da quelle del resto della federazione all'interno attuale, certo. Ma questo pure nella seconda stagione però era così, perché a un certo punto loro, cioè, lo dicono proprio: ah, sono arrivate le nuove uniformi, ah, tutte colorate, no? Io se facevano le battute. Vabbè, lì l'hanno dovuto fare per forza, perché sennò non si spiegava come mai l'Enterprise di Pike avesse un uniforme completamente diverso. E allora metti la stessa uniforme pure a Discovery, cioè perché Pike quando diventa il capitano della Discovery se deve mettere l'uniforme della Discovery? Chi cazzo è la Discovery? Cioè che è un'organizzazione a sé, cioè. Vabbè, poi dicevo sull'attuale futuro dove ci troviamo, possiamo anche dire che le nuove divise possono anche essere carine, però quei gli stivali a metà tra il fantino e il sono un po' marziali, dai, diciamo, c'hanno sta cosa. Io l'unica cosa, ragazzi, che secondo me la storia di per sé non è manco male. Il problema è che abbiamo una protagonista che distrugge la serie, cioè, ma non lei tanto quanto come attrice, ma proprio per il modo in cui la stanno a scrivere, cioè sto piagnisteo continuo, sto smucinamento dei coglioni che non finisce, cioè, sembra la Claudio Baglioni del futuro, cioè hai rotto il cazzo, cioè è una cosa, qualsiasi cosa, cioè, non c'è mai una motivazione ideologica, morale, no, cioè perché gli prude la fregna, capito? È una cosa che non lo posso accettare, mi dispiace, è proprio una cosa che mi sta veramente sgonfiando totalmente la serie, più questo che, e come, cioè, abbiamo parlato pure con Gualdi, no, nel gruppo nel Telegram, insomma, dove parliamo per cazzi nostri di questa cosa, cioè alla fine io dico, spero che facciano crescere molto altri personaggi rendendola lei compartecipativa, non facendola sparire, ma insomma non essendo neanche il protagonista assoluto, perché così è troppo la palla. Però è il protagonista, era il punto di forza, quello che dicevano, il punto di vista nuovo del singolo, non del anche non perché centrale. Simone, di personaggi rispetto alle altre serie che sono sempre state un po' più corali, anche se hanno sempre poi avuto uno o due personaggi più centrali, le altre serie che erano molto corali avevano un equipaggio del ponte di comando abbastanza variegato. Qui, se andiamo a vedere i personaggi che vengono esplorati, sono lei, la Giorgio, Saru e Tilly. Gli altri sì, ma fino a un certo punto. Già da sta puntata che stanno costruendo questo rapporto tra l'ingegnere e la ragazzina, là, che comunque alla fine lui fa delle riflessioni su sta cosa che sono interessanti. Cioè, tutto sommato, alla fine ce l'ha il materiale su cui scrive, ragazzi. Sì, cioè, però non è che... sono comunque sottotrame, almeno al momento. Sì, poi insomma. Sono sottotrame, no, che sono più interessanti di lei. Però Kevin Spacey è bravo come attore. A me il suo personaggio piace molto. Non ho capito, scusa. L'attore che fa l'ingegnere capo è quello che ha denunciato Kevin Spacey. Ah, sì? È lui? Sì, sì, è lui. Minchia, non lo sapevo. Sai, ne abbiamo parlato altre volte. Il rovinatore di Kevin Spacey. Questo è un ictus, però. Questa è un'ischemia che ha fatto dimenticare. Vabbè, oh, riga, il momento Andreotti. Anthony Rapp, che quando era adolescente si era trovato a questa festa a casa di Kevin Spacey e dopo 30 anni se n'è ricordato e l'ha messo nella merda. Nella merda, la sua dichiarazione iniziale era anche abbastanza blanda, perché sì, disse una roba di tipo: lui magari non sapeva quanti anni avevo. Vabbè, ho capito, però molto ricordi. Perché tu stavi lì invece di stare a casa a fare i compiti? Cioè, se sapete, quello, il ragazzino che invece era proprio portato in tribunale, che mi spesi, è finito in una fantastica bolla di sapone, perché il famoso cellulare che doveva contenere i messaggi che aveva mandato che mi spesi a sto ragazzino, eccetera, eccetera, si è scoperto che era tipo un cuscio vuoto, o meglio, che c'erano prove di manomissione e non si capisce chi avrebbe dovuto farle, perché il cellulare era in custodia della mamma del ragazzo. Ma qui a quanto pare si è chiusa veramente con niente. Ma sapete che vi dico? L'hanno fatto fuori da House of Hollywood. Sì. Sapete senza che io sia riuscito a vedere House of Cards, mortacci. Sapete che vi dico? Che si è fatta una certa. Carissimi ragazzi, è stata una bellissima puntata, anche abbastanza lunga, abbiamo parlato meno di quello che si parla di solito su OGM, però abbiamo provato a esplorare altri frangenti. E vi ricordo che sabato alle 15, alle 16 mi pare, ci sarà la puntata di addio a videoludica.it podcast, il podcast fuori dalla cricca, orgoglioso di esserlo, ma di solito come succede con Runtime Radio, quando c'è qualcosa che va a dormire, c'è sicuramente qualcos'altro che si sveglia, quindi ci saranno cose, insomma, da dire. Non piangete, ma fatelo col sorriso. E se volete mandate messaggi anche sul nostro gruppo Telegram, noi li metteremo da parte e li faremo sentire durante la puntata. Detto questo, io ringrazio e saluto come sempre Walter Sbanus. Ragazzi, buonanotte, ci sentiamo, ci riascoltiamo lunedì prossimo, sempre alle 21, qui su OGM, che questa volta me lo voglio ricordare, oscurantisti giuridicamente male informati. Ringraziamo e salutiamo Carmine Puccio Cantali. Ciao a tutti, ci sentiamo sabato. Ringraziamo e salutiamo con l'entusiasmo che sempre lo contraddistingue Mark Walls. Ciao, è stato bellissimo. Troppo entusiasmo. E ringraziamo anche Francesco Lobby Frontalis. Buonanotte a tutti. Ah no, questo non è Runtime Don. Scusate, sono abituato ad altri ritmi. Esatto. No, ci devo provare a partecipare a Runtime. Ci dovresti provare perché è roba bella. Penso che adesso io potrei farlo perché il sabato. E infatti, potresti farlo perché non lo fai. Tra l'altro, l'ultima puntata, devo dire, ragazzi, anzi, le ultime due puntate sono state veramente carine. Quindi, ringrazio ancora tutti. Ci vediamo lunedì prossimo con Runtime Radio e OGM alle 21, come al solito. E se avete dei temi, suggeriteci. E arrivederci, grazie e buonanotte. Ciao, buonanotte. Spegni i pizzi.